Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Quanto rompete i coglioni, ma se non vi piace cambiate canale. Che mondo sarebbe senza la zanzara? Allà, andate al bar! Allà, andate al bar! Eccoci qua, caro Parenzo, iniziamo subito con il presidente della Camera, con la nostra amata presidente, chiamiamolo così perché mi viene così, in realtà potrei chiamarlo anche il presidente, anzi bisogna chiamarlo il presidente della Camera. Vorrei subito sapere da te, caro David, se ti sei allineato alla nuova, alla nouvelle vague, se utilizzo questa parola in francese, cioè a questa nuova moda diffusa dalla Boldrini, che vorrebbe diffondere la Boldrini, di chiamarla la presidente, oppure non te ne frega niente? Dimmi subito questo. Meno di niente. Oh. Uno si fa chiamare come meglio gli pare. Sì, questo è vero. Però non è che puoi imporre, agli altri di chiamare in un certo modo. Per educazione, se mi chiedi di chiamarla la presidente, la chiamerò la presidente. Cioè, la quelli che non lo fanno sono maleducati. Se lei lo vuole, quelli che non lo fanno sono maleducati. Sono semplicemente maleducati. Ma la mia giornata non cambia, il mio 7:30 non cambia, cioè non me ne frega niente sostanzialmente. Non è che mi cambia la giornata. Tra il coso, non scusa, mi cambia, no? Il mio, ma cambia il mio stato, no, né di salute no, mentale neanche, no, ho capito, mi costa però fatica, il mio ISEE cambia, no, perché mi costa, sì, io lo so che mi cos'è, mi costa fatica, sì. No, appunto, mi costa fatica chiamarla la presidente se le fa piacere, no, la reputo una stupidaggine, sì, quanto, da 1 a 10, 11, però le fa piacere. Ma perché lei si impunta su questa cosa, secondo te? Ma non lo so, ma secondo te io il 27 del mese, quando mi arriva la busta paga, penso a questa roba qua. Vabbè, no, d'accordo. Vabbè, mi chiede di chiamarla la presidente, quando la incontro, cioè sì, mai, sì, sì, la chiamerò la presidente, se la fa, le no, fa passare un'ora, no, mezz'ora, allora, di felicità, la posso regalare, perché tanto la mia condizione economica, sociale, non politica cambia, non cambia. Allora, quindi, da dove nasce tutto ciò che non mi cambia la vita, lo posso fare. Da dove nasce questa surreale, sembra, discussione tra me e David sul modo di chiamare il presidente della Camera? Come sapete, il presidente della Camera vuole essere chiamata la presidente. Ne è nato, per fortuna, perché era un po' di tempo che non si faceva sentire la signora Boldrini, in realtà, no? Un diverbio con un leghista, credo che si chiami Simonetta, Simonetti, una cosa di questo tipo. Simonetti, alla Camera, sentiamo. Adesso chiede di intervenire il deputato Simonetti, prego. Grazie, signor Presidente. Ma signora. Signor Presidente, grazie. No, no, signora, perché io non sono un uomo. E fa lo stesso. No, non fa lo stesso, perché allora lei è deputata. Sì, guardi, non stiamo qui a discutere se di lei queste è, cose. Guardi, allora, io parlare, sono, allora, signor Presidente, lei, se lei parlare, è deputata. Io, per favore, dico quello che voglio. No. Io dico quello che voglio, no. Mi rivolgo alla Presidenza come voglio. No, no, non, no, non no, no. Siamo bene, no, no, no, no, lei non si rivolge alla Presidenza come vuole. Lei rispetta la Presidenza. Ma io mi rivolgo come voglio, e lei, se vuole, onorevole, non deputata. Lei facciamo ancora si prima. Rivolge con rispetto. Beh, meraviglioso. Io avrei anche insistito, fossi stato nel signor leghista Simonetti, ci avrei continuato a chiamarla signor Presidente, in modo che quella interrompeva di continuo. Anzi, suggerirei ai signori leghisti o anche ad altri gruppi politici, per carità, di fare una specie di stalkeraggio della Boldrini. Ma continua la bestia. Avranno di meglio da fare. Alla Camera uno deve continuamente intervenire, signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente. Così uno che fa? Si blocca tutto perché uno deve interrompere di continuo, no? Cioè dovrebbe interrompere di continuo la Camera. Così salta tutto, bellissimo, saltano le sedute, le cose, stupendo. E per colpa sua, perché si impunta su questa cosa. Ora dimmi qual è il problema mentale che uno deve avere per il fatto di essere chiamato signor Presidente della Camera. Adesso francamente è una questione di rispetto, no, come dice lei, non è una questione di rispetto, dai. Se uno vuole dire signor Presidente, dice signor Presidente, punto e basta, dai, su, cioè. Io ho rispetto. Bene, allora Presidenza. Io... Presidenza, okay? Sì. Sì, la Presidenza. Certo, l'ufficio di Presidenza, ma lei è il Presidente. No, io sono la Presidente. Va bene, ok. No, non va bene, è la grammatica. Beh, effettivamente però la Presidenza è una discriminazione da questo punto di vista. Potrebbe essere, cioè se uno dice la Presidenza della Camera, potrebbe essere una discriminazione perché al contrario. Perché è maschile in quanto istituzione, lei dice, sì, no? Sì, ho capito, però la Presidenza della Camera, perché dovrebbe essere la Presidenza della Camera? Però il è un Presidenza, il Presidenza della Camera. È un dibattito molto interessante, che come direbbe il nostro amico Salvini, cambia la sorte dei risparmiatori di Arezzo? No, no. A proposito di risparmiatori di Arezzo, di banche, eccetera, eccetera, Vittorio Feltri, quando vede una banca, mette mano alla pistola. Vecchia frase che, come sapete, non è né sua, né mia, né di altri, ma di un signore che visse durante la Seconda Guerra Mondiale ed era molto vicino a Adolf Hitler. Io sinceramente quei pochi soldi che ho li ho sparpagliati qua e là, perché quando vedo una banca, se avessi la pistola metterei la mano alla fondina, come diceva qualcuno in passato. Sgarbone è uscito dall'ospedale e credo si trovi a casa sua. Più tardi collegamento per verificare come sta e altre cose ancora. Ma si è fatto vivo, caro Parenzo, il governatore del mondo. Il governatore Visco. Del mondo, amico mio. A parte Visco, apriamo una parentesi su Visco, ma ti pare normale, giusto? Bravo che mi hai fatto... Visco, mi hai fatto... governatore del mondo, è uno che governa sul sistema bancario, è il governatore del governatore mondo? Governatore del mondo, secondo me. Il sì, lo so, è De Luca. È De Luca, il governatore della Campania. Il governatore della Banca d'Italia è Visco, ma ti pare normale che un governatore della Banca d'Italia va dalla trasmissione di Fabio Fazio? Ma ti dirò. No, ti dirò, no, non è normale. Ti dirò, dai, non è normale, dai. In non fondo, è normale. Vedere questo signore che oggi cioè, è all'attenzione Fazio, dell'opinione pubblica. E Visco. Dai, ma basta stare il contenitore. Ma per dire nulla poi. Però per che il nulla, vada. Vabbè, questo è un altro discorso. Però che si esponga ai microfoni ma e finalmente. No, visto no, che è un uomo. No. Beh, insomma, mica non è un uomo secondario. Te, ma non me l'aspetto da te. Ma che sottoporsi no, ai microfoni? Ma il governatore della Banca d'Italia deve sottoporre. Ma deve andare a coso. Ma deve parlare. Ma è un organismo a sé stante. Ma deve parlare in ambito istituzionale. Deve fare i suoi comunicati. La gente deve sapere ma se che le sue deve difese sapere, se ha fatto bene il suo lavoro. Ma no, che lo sa, da un'intervista di Fazio, dai, ma non diciamo lo sa, la verità. Però insomma, dai. Che ci metta la faccia invece è importante. È solo star Fazio, non ma Fazio. Ma che faccia ci mette? Non ci mette nessuna faccia. Può andare per me anche a scherzi a parte se vuole, o dalla signora D'Urso, Visco, non, anzi gli farebbe bene probabilmente. Ma no, ma non ragazzi, alcune cose vanno anche tenute lontane dalla, cioè dai talk beh, show, no, dalle momento, polemiche, dalle cose. Il signor governatore oggi è al centro di una polemica, è l'uomo. Ho capito, ma vanno tenute lontane. La gente deve sapere, ha vigilato, non ma ha vigilato. Deve sapere, da Fazio, ha mandato dall'intervista di Fazio. Ma smettila, dai, su. Fazio. Ma no, ma Fazio potrei dire anche di qualcun altro. Fazio stessa ha fatto cosa. Benissimo a invitarlo, però, perché era l'uomo del giorno. Sì, assieme a Checco Zalone, io non sto peraltro. Dicendo niente contro Fazio. Lo ha invitato assieme a Checco Zalone, che meraviglioso. Ma che ti fa pensare, però? Ma ti fa pensare che sia più serio Checco Zalone o Fazio? O Visco, non lo so. Checco Zalone, appunto. Però, ha fatto bene a farlo. Ma sì, ma lascia perdere Fazio. Sto dicendo. Quello ha fatto bene andare in un contesto popolare dove tutto sommato non è stato messo proprio in discussione. Ah, ecco, appunto. No, ma questo è il punto. De Luca Show su Di Maio, Su Di Maio, il grillino Di Maio. Di Maio si presenta bene, si presenta bene, un po' come Charlie Brown, si presenta bene, molto... Ora, la cosa che mi domando sempre io è che se noi domandiamo a uno come l'onorevole Di Maio, ma tu nella tua vita che hai fatto? Non so quale risposta potremmo avere. Stupendo, stupendo, senti. Ma lui come attività professionale vanta questo: svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster. E questa è una cosa grossa. Lei ha mai sentito uno a cui chiedeva tu che lavoro fai? Il webmaster. Che è una formula elegante per dire lo sfaccendato, fa niente. Allora, molti hanno criticato questa cosa di De Luca, che è governatore comunque di una regione importante, ha un ruolo istituzionale e che tira sassate a destra e a manca, in particolare su Di Maio, il webmaster. Ora tutti i webmaster d'Italia stasera mi devono chiamare, i webmaster d'Italia incazzati neri, perché dicono, perché De Luca dice, governatore della Campania, che il webmaster è sostanzialmente uno sfaccendato. Ho cercato, mi hanno dato un po' un curriculum vitae di Di Maio. Di Maio si è candidato a Pomigliano, ha preso credo 50-60 voti, cioè non lo hanno votato neanche i suoi familiari, per essere chiari. Mi auguro che non capiti mai all'Italia la disgrazia di dover fare una esperienza di governo. Brave persone, simpatiche, un bel taglio di capelli, ma webmaster. Pensate, un candidato premier che si qualifica come webmaster. Beh, poi sulla Boschi, spettacolare, non si può sfiduciare la Boschi perché è come sfiduciare la Venere di Botticelli. Ho visto che alla Boschi fanno la mozione di sfiducia. Siamo veramente alla barbarie. Cioè, è come presentare la mozione di sfiducia alla Venere di Botticelli. Che cosa? E perlomeno la Boschi, cioè, salvaguardiamola in un paese triste, grigio, burocratico. Diamole l'extraterritorialità, diciamo, politica. Amici, ascoltate la Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. La Zanzara. Caro Parenzo, ma che ci fai lì a fianco a Cruciani? Che ci fai? Tu sei troppo intelligente per star lì con Cruciani, troppo intelligente! Scappa! Scappa! Allora ragazzi, in Calabria succede una cosa incredibile, caro Parenzo. Poi uno dice che si incazza col Vaticano, uno dice che è eccessivo, uno dice che è troppo pesante con il Vaticano, che qualcuno da noi disse la centrale della pedofilia, e io alla fine sono d'accordo con chi disse la centrale della pedofilia. Beh, signor Olivero Toscani, certo, per le dimensioni e per le cose che succedono è certamente la centrale della pedofilia. Allora, cosa succede? In Calabria c'è un signore che si chiama Don Antonio Antonello Tropea, parroco di una chiesa di Oppido Mamertina, provincia di Reggio Calabria, il quale ne fa di tutti i colori, va con i minorenni, sequestrano a casa sua vibratori, lingerie, eccetera, eccetera, eccetera. Viene arrestato in galera. Uno dice tutto bene, tutto a posto, no? Ci sono i preti pedofili nella chiesa, lo sappiamo, non sono nella chiesa. E no, amico mio, no, non ci fermiamo qui. C'è il vescovo di quel posto. Vescovo, di cui vorrei fare il nome, si chiama Monsignor Francesco Milito. Monsignor Francesco Milito, ricordatevelo bene, Monsignor Francesco Milito, il quale, dalle conversazioni, dalle intercettazioni, dalle indagini, insomma, dei carabinieri, risulta avere coperto questo signore. Cioè, non parlare con i carabinieri, gli diceva, non parlare con i carabinieri. Avrebbe consigliato anche, appunto, di non raccontare tutta la verità alle forze dell'ordine. Non ha preso provvedimenti, nessun provvedimento. Dunque, per quanti anni, con la copertura del Monsignore Vescovo, questo ha continuato ad avere rapporti anche con minorenni? Punto interrogativo. Ma questo sarebbe nulla di fronte a che cosa? Di fronte al fatto che ci sono persone in questo paese che si chiama Oppido Mamertina, che tra l'altro, Parenzo, ti ricordi bene essere lo stesso paese dove hanno fatto l'inchino ai mafiosi? Certo, Oppido, come ce l'hanno tutte in quel paese là, Oppido Mamertina, c'hanno i mafiosi e c'hanno pure il prete pedofilo. signori di Oppido che mi ameranno molti, signori di Oppido. Beh, d'altra parte è la realtà, sono i fatti a dirlo. Oppido, ma Martina, ci sono i mafiosi che fanno l'inchino, no? Durante la processione, esatto, con la statua là della santa, e in più c'hanno anche il prete pedofilo. I signori, non mi stupisce dunque che Oppido e Mamertina dicono: beh, ma questo prete è una persona per bene, non me la sento di condannare. Ascolta, ascolta. Perché io lo conoscevo per una persona per bene, non so cosa è successo. Non me la sento di condannarlo perché comunque in 2 anni di presenza non ha mai dato il sospetto. Monsignor Milito che ha coperto secondo l'intercettazione dei carabinieri un prete pedofilo a lungo, sapendo del suo problema. Addirittura questo qua aveva presentato una lettera di dimissione nel 2010, capito? Perché a un certo punto questo, che è un malato ovviamente, cioè che è una persona malata da condannare, si era reso conto di essere incompatibile con la Chiesa, no? E cosa ha fatto? Dice: guarda, io non ce la faccio più, sono pedofilo, vado con i ragazzini eccetera, mi dimetto. No, non l'ha fatto dimettere, non ha accettato la lettera di dimissione, da quello che sembra, da quello che si legge. Monsignor Milito è uno di quelli che per esempio ha aperto la porta santa ad Oppido Mamertina per il Giubileo della Misericordia. Anche? Sì, tranquillamente. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante i limiti. Monsignor Milito, maledettissimo Monsignor Milito. Un'altra cosa, che cos'è che dice poi in quest'altro passaggio? Cos'è che abbiamo scovato di Monsignor Milito? Tanto più si vive la propria fede cristiana, tanto più traspare all'esterno questa ricchezza. E questo diventa un buon contagio. Se io sono uno che mi profumo, chi mi sta vicino avverte il profumo. E se non mi pulisco, qualcosa di me andrà che non è proprio nella linea del profumo. Così è per il cristiano. Questo parla più in calabrese che in italiano. Se sono un buon cristiano si sente come uno che si profuma, no? Questo vuole dire. Ah. Massimo, provincia di Venezia, vai. Ciao a tutti. Io volevo solamente dire una cosa. Ma com'è possibile che nessuno commenti il fatto che il cardinal Bertone ha consentito a restituire 150.000 euro? Ma scusa, io con lo sconto, tra l'altro, pare. No, lui dice che è una donazione fatta così per aiuti, che non c'entra nulla, ma ha fatto una donazione così. Sì. Però vedete che anche voi non parlate di un'altra cosa più importante. Ma com'è possibile che un cardinale abbia 150.000 euro? Sì, anch'io mi stupisco. Certo, lui ha spiegato che sono soldi che gli arrivano dalle donazioni. Ma lui non può avere, lui deve fare del bene. Magari è ricco di famiglia, che esatto, sappiamo. Magari sono soldi di famiglia. Può fare un'indagine sui suoi conti. Ci sono cardinali, vescovi, sapete, eccetera. La cosa strana è quella che c'è Nuzzi, Ciaucchi, Baldà Fittipaldi a processo. Sì. E invece nessuno ha fatto un interrogatorio al signor. Vabbè, quello però che c'entra? Perché? Se non viola le leggi, evidentemente non ci sono inchieste. Ah, tu dici non ci sono inchieste su Bertone all'interno della Chiesa. Per chiedergli, non lo sappiamo, magari ci sono, per chiedergli: scusi, monsignore, ma come mai tu, caro Bertone, vivi? Ma guardate che lui ha detto solo che questo. Sono 150.000 euro suoi. Sì. Sì, però i soldi, se sono un illecito è un altro discorso. Se sono suoi, può darsi pure che ci siano vescovi, come io so benissimo, vescovi cardinali di prima erano di famiglie ricchissime una volta nella storia, i vescovi cardinali, cioè non erano di famiglie del povere. Mazzoni, però. Sì, ma anche dopo erano di famiglie molto ricche, cioè molto ricche, nobili del Roma, toscani, eccetera eccetera. Francesco, Milano, vai. Francesco, dimmi. Ciana. Francesco, dimmi. Sì, Cruciana, lei vuol dire che fa bene a fare la provocatrice, perché la radio giustamente deve fare ascoltatori, sì. Però certe volte diventa stupida veramente quando non capisce la differenza. Com'è che mi ha chiamato lei, scusi, Cruciana? Sì, lei è una provocatrice stupida e cretina. Una provocatrice, sì, ma lei può chiamare anche anche come una donna, ma non è che mi offendo io, se mi chiama la Cruciana e il tizio mi dice buonasera signora, io non dovrei fiatare, cioè, ma non si rende conto che diventa veramente una cretina lei? Ma non ho capito, si riferisce a qualcosa in particolare oppure no? Ha criticato la Boldrini, che affermava il genere maschile e femminile nella comunicazione, proprio, cioè, Ma questa, se lei conosce questa trasmissione, è una lunga, come dire, una lunga storia di critiche alla Boldrini per queste stupidaggini colossali su cui si perde del tempo. Come si chiama la deputata? Deputata, io lo chiamo deputato, deputata, uguale. Deputata che il presidente è il presidente. Dire la presidente è una stupidaggine colossale. La presidentessa, uno lo può anche dire, chi se ne frega. Ma la presidentessa, ma non si può chiamare il presidente. Scusami, Francesco, però. Chiami la Crusca. No, ma non è quello il punto. Il punto è un altro. Il punto è interrompere uno in aula perché ti si rivolge come il presidente. Poi uno, perché secondo me è una cazzata. Che si rivolge alla Boldrini, come si chiama? Ce l'ha lì il nome appuntato? Sì, certo, Simonetti, credo. Simonetti, allora? Cioè, i leghisti, le scimmie leghiste, ma che cacchio portano in Parlamento? Sta gente che perde tempo. Ma lasci perdere che è uno della Lega. Francesco, lascia perdere, non è, può essere anche di un altro partito, non è importante. Cioè, non è importante chi si è rivolto in quel modo alla Boldrini, che può essere pure uno. Che è importante. È importante, vabbè, siccome parla uno della Lega, allora non va bene. No, perché però perdono tempo con queste sciocchezze. Ma secondo me non lo voleva nemmeno fare apposta. Dovevano licenziare i forestali calabresi. Ma lì secondo me gli è sfuggito, poi però ha affondato il coltello. Gli è sfuggito all'inizio, non voleva nemmeno fare la provocazione. Poi si scusa. Ma si scusa di che? Ma io chiamo il presidente e me ne frego, è quella che interrompe un dibattito, per carità, tanto i dibattiti non valgono nulla, però interrompe una seduta della Camera per dire devo essere chiamata la presidente, ma chi se ne frega? È stata la deputata leghista a sbagliare. Vabbè. E quindi si scusa, si corregge e si va avanti, si prova a risolvere i problemi. Vabbè, ciao, no? Giuseppe Pavia, vai, Giuseppe, non sono d'accordo, Giuseppe, vai. Sì. Dimmi. Tu chi è che è caduto? Giuseppe? Cioè, non è caduto. Massimo Perugia, vai. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao. Senti, vuoi farti una domanda, Cruciani? Quanto tempo è che non hai fatto una passeggiata in un bosco, camminato in un bosco? Ma guarda, invece ti sbagli, recentemente, 10 giorni fa, in mezzo alla natura, ho fatto un'arrampicata con Filippo Facci, figuriamoci. Bravo. Sì. E in tutto questo il fucile che mi rappresenta, visto che dici che i cacciatori amano la natura? Assolutamente, i cacciatori sono i più grandi amanti della natura, cioè secondo me amano molto più la natura i cacciatori piuttosto che gli animalisti o le associazioni animaliste, cioè tra un cacciatore e uno della LAV, uno della non so che cosa, del WWF, certamente ama la natura più in modo diverso l'ama. Guarda, sicuro, ha una passione per la natura molto più accentuata un cacciatore piuttosto che un militante del WWF, guarda, ci posso mettere la mano sul fuoco, ovviamente poi dipende dalle persone, però in generale secondo me è così, fermi tutti. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ciao Cruci, io vivo a Londra, mia ragazza è tedesca e non te sopporta. Ogni volta che dico a Zanzara, storcia la testa. Ma che senso ha fare 10 minuti di trasmissione e poi un'ora di fermo, porca puttana. Ma chi cazzo ve lo fa il palinsesto, Topolino? Come un cinghiale che si sfrega contro un albero. Hanno arrestato nella piana di Gioia Tauro un prete pedofilo che non vogliono dire neanche le iniziali, se lo te non lo so, non dicono un cazzo, che si faceva fare le seghe da minorenni figli dei boss. È straordinario come anche i figli dei boss sono finocchi e anche i preti pedofili, è un casino. Buonasera, allora Cruciani, a questi prete pedofili io le strapperei i coglioni. No, ma certo, la cosa incredibile è la copertura, secondo me. La cosa incredibile di questa vicenda, al di là della rabbia che viene fuori dagli ascoltatori, è la copertura. Verrà processato in Vaticano questo prete o no? Ma il prete è stato arrestato oggi, il prete pedofilo. Ma perché non viene processato anche in Vaticano? Ma che c'entra? Il processo in Vaticano è un'altra cosa. La cosa che mi fa impazzire è la copertura del vescovo, capito? La copertura del vescovo. Salvini, ciao Matteo, ciao, ciao. Eccoci qui. Che schifo quella telefonata. Perché? Quei perché? Figli dei boss. Sì, che quello, non ho capito chi. No, vabbè, nel senso che nella storia di Gioia Tauro, è un ambiente, guarda, della pedofilia, c'è gente. Guarda che mamma c'è gente. Mamma mia. Ma sono storie di vita reale. Ma tu hai un prete? Oggi sono andato a mangiare il panettone alla camera. Siccome non avevo fatto colazione stamattina. Sì. L'abbiamo dato perfino a Parenzo. Esatto. Sapevo che c'era la conferenza stampa di Salvini. Non ho fatto colazione. Sono andato alla camera, distribuito il panettone, sembrava... Ma guarda che c'era il maiale dentro, eh? No. Sei sicuro? No, io l'ho chiesto. Sei sicuro che non c'era il maiale? La cosa bella erano i commessi della camera, questo lo posso raccontare, che a un certo punto dietro diceva, oh, ma che, se lo mangia tutto lui? E lui dice, no, adesso, dacci il panettone, i commessi della tutti camera. Tutti si è ambientato, naturalmente, Parenzo, subito no, sul panettone. Lui si vede nel filmato che il Fatto Quotidiano ha generosamente diffuso in rete. Fatto Quotidiano ha scritto, alcuni giornalisti mangiano il panettone di Salvini, come se fosse un criminale, no? Sì. Ecco alcuni giornalisti. E si vede Salvini che scherzamente dice: tieni Parenzo e me lo lancia. Io lo prendo e lo mangio. C'è questa inquadratura ingenerosa anche del giovane Parenzo che si mangia il panettone padano. E questo articolo del Fatto. Tu lo sai che i panettoni adesso più in voga, quelli che costano di più, quelli più cari, Salvini, in realtà non sono lombardi. No, è sono del sud. Panettone. No, sono del sud. Cioè al sud. Come no? Ma assolutamente. Ho letto una cosa: il panettone più caro e più buono, pare, viene prodotto, credo, in Basilicata, una cosa di questo tipo. Cioè, non c'è più religione. Viva la Basilicata. Non c'è più religione. A me basta che sia buono. Senti, tu la Boldrini come la chiami? La presidente o il presidente? No, è l'essere più inutile che la Camera ricordi negli ultimi anni. Beh, no, come l'essere? L'essere più. Ma tu come l'essere femminile, maschile, non so. No, ma ho capito, ma tu come ti rivolgi? La presidente o il presidente? Ma ti pare normale, secondo me è indegna di rappresentare. Cioè, sono delle cazzate talmente che uno non può interrompere. Ma dai, adesso la presidenta, il presidente, bada a quello che fai, dai. Poi, comunque, lo sai che cos'è? Voi dovreste fare una cosa del genere, voi o qualsiasi altro gruppo. Cioè, dovreste, per farla impazzire, una sorta di stalkeraggio continuo, di chiamarla continuamente in ogni intervento il presidente, caro presidente, così è costretta a interrompere. Sì, ma se una, con tutti i problemi che ci sono, ecco, star lì sull'articolo determinativo maschile femminile mi sembra veramente da malati mentali, però vabbè. Senti, mi dai una tua definizione del signor Verdini che dice che sta imbarcando un sacco di gente di Forza Italia che arriverà in Forza... Che tristezza, proprio classico salva poltrone per cui l'idea vale un quarto d'ora, un po' di qua, un po' di là. Poi mi piacerebbe sapere, a proposito di intrecci bancari, quanto c'entra anche il signor Verdini, se c'entra, perché c'entra, come c'entra. Che tristezza. Cioè, no, ma no, non ho capito, cioè, secondo te Verdini c'entra qualcosa con la Boschi dal punto di vista, hanno degli affari in comune? Chiedeteglielo, è una mia curiosità, è solo una mia curiosità. C'è qualche ascoltatore che si sta domandando se appunto nelle vicende toscane dove Forza Italia ha inciuciato anni col PD renziano ci siano anche, oltre che vicinanze politiche, vicinanze, cioè, di interesse affari economici tra la famiglia Boschi o la Boschi stessa. Magari non è vero, magari è solo un mio dubbio, brutto, cattivo e sospettoso. E poi, detto questo, uno che prende i voti per stare all'opposizione, poi va in maggioranza, poi torna all'opposizione e dice candidamente: a me interessa salvare le poltrone, è proprio l'antitesi della politica che ho in testa. Però io sono stati alleati con voi un sacco di tempo, di Verdini e compagni. Ma adesso questo ci spiega perché adesso siamo all'opposizione. Però Berlusconi, sì, siete all'opposizione, d'accordo voi. Berlusconi, che dice di essere all'opposizione, l'altro giorno non è che ha fatto tutta questa opposizione quando si è trattato della vicenda della Boschi. Tutt'altro. Esponente di Forza Italia che ha più a cuore la poltrona e il futuro personale che non un progetto. No, ma tutti serio. Sono usciti, non hanno votato, non hanno votato la sfiducia. Hanno obbedito a qualcuno. A Berlusconi? Lega, a chi? Ma non lo so, chiedetelo a lui, non posso interpretare. No, ma okay, tu hai detto, si rimette in gioco, tu hai detto, se non votano contro la Boschi si rimette in gioco l'alleanza, ma chi non si è rimessa in gioco niente, non è successo nulla alla fine, sono solo minacce così. No, minacce, ma tanto sai, siamo all'opposizione, io sto cercando di costruire qualcosa di nuovo, non la riedizione del vecchio polo delle libertà del passato, mi interessa costruire programmi concreti, precisi. È chiaro che chi strizza l'occhio un giorno alla destra, un giorno alla Lega, un giorno alla sinistra. Ho capito, ma qui è Berlusconi che ha deciso di non sfiduciare la Boschi. Ma chiedetelo a lui perché mi ha detto, ma cioè, moralmente, dal punto di vista morale, lui dice, guarda, io sono contro gli attacchi personali. Sono sono contrario, personali, così ti ha detto. Io ne ho subite di tutti i colori, la sfiducia ad persona, me l'attacco ad persona, non mi piace. Vabbè, ma che per carità, posizione anche apprezzabile, posizione garantista apprezzabile. Ma se fosse capitato a lui un quinto di quello che sta capitando alla Boschi e a Renzi, ma l'avrebbero già processato su pubblica piazza. Sì, vabbè, ma questa cosa degli attacchi personali è tutta una copertura, dai. Se questo, che in Forza Italia ci sia qualcuno che vorrebbe avere... PD, mi sembra chiaro ed evidente, questo qualcuno. Ma chi è quelli, chi sono, ma chi sono questi che vogliono avere la tessera del PD? Ma quando il capogruppo in Senato Romani dice che la Boschi è una statista eccezionale, stanno facendo una riforma della Costituzione che grida vendetta. Cioè Romani è uno che potrebbe militare tranquillamente nel PD, secondo te? Sì, assolutamente. La tessera gli deve dare Renzi. Sì, addirittura, ma qualcuno addirittura lo candidava sindaco di Milano e lui magari. Guarda, fortunatamente poi la stragrande maggioranza di Forza Italia, gli elettori di Forza Italia hanno voglia di alternativa, di futuro, di nuovo, di sincerità, di concretezza, quindi non sono rappresentati da Verdini o da queste persone qua. Insomma. Senti un attimo, ma tu sei stato in Russia, no? Parenzo, lo sai, sì, no? Che è stato in Russia. Ho visto anche le foto. Un bellissimo libro, 22 euro, a me non viene in tasca. 22 lira. Euro, un sacco di soldi. Il direttore del TG1, bravo, generale San Giuliano. Sì, Putin, l'ho letto. Luci e ombre. Generale San Giuliano, sì. Bello, interessante. Senti una cosa, Putin, ma non ho capito, Putin, ma sì. Tu, il tuo vero presidente... Ma non te neanche ricevuto, però. Ma no, non c'era l'appuntamento in programma, quindi non mi autoinvito. Lo incontrerò, magari porto anche te, Parenzo, così almeno conosci. Volentieri, magari. Però degli uomini di... Tu hai annunciato oggi, ma non hai spiegato bene, io non te l'ho voluto chiedere, sì. Che degli uomini di Putin, degli emissari di Putin, probabilmente no, del KGB, verranno a Milano. Sì, degli emissari di Putin verranno a Milano. Verranno a Milano con te e la Le Pen. Putin ha un partito che si chiama Russia Unita e quindi ci sono anche degli sindaci, dei deputati, delle deputate. Però scusami, vanno a Milano a gennaio, pensa a te. Vabbè, dai, quello sarà una cosa ufficiale, ma il tuo vero presidente, cioè tu riconosci più come tuo presidente Putin o Renzi? Ma no, io farei carte false per avere domani mattina Putin al posto di Renzi. Cioè il tuo vero presidente è Putin, cioè se tu devi... Sono cittadino italiano, quindi in questo momento purtroppo sono, ahimè, indegnamente rappresentato da Renzi. Detto però... questo, mi sembra che a livello internazionale... Cioè ti riconosci molto più in Putin? Che in Renzi? Assolutamente sì, ha le idee chiare. Poi può avere... Ma quello è italiano, quello è russo, quello farà i cazzi della Russia. E Renzi in teoria dovrebbe difendere gli interessi italiani. In teoria, poi naturalmente si può discutere. In teoria, ma il problema è che Putin fa gli interessi dell'Italia. Cioè fa più gli interessi dell'Italia Putin di Renzi, secondo quando te? Quando si batte contro il terrorismo internazionale, sì. E quando dice smettiamola con queste sanzioni perché io voglio lavorare. Sì, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, dobbiamo chiudere anche perché non si sente una mazza. Ciao Matteo, ciao. Bisogna sentire il contatto bisogna sentire. La Zanzara. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'assio. Tu ci fai digerire da anni Parenzo, tu l'hai preso, l'hai portato nella tua trasmissione, vai in TV con le sue camicette bottonda, ma che andava prima, è uno sfigato, ma chi cazzo lo conosceva? Tu sei un delinquente perché l'hai reso un mostro. Questa storia delle camicette non l'ho capita, le camicette. Invidiano le mie bottom down, che non dirò mai di che marca sono per non far marchette, insomma, però questo attento spettatore invidia le mie camicie bottom down, che sono di un tessuto che non occorre stirarle da quanto è buono il cotone. Ma veramente? Cioè non si possono non stirare? Si possono anche non stirare, certo. Ma veramente stai dicendo? Ti assicuro. Mamma non dirò mia. La marca. Che classe, che è classe. È una marchetta. Che classe. Ti piace molto a te? Ti piace molto la camicia, quella, la bella camicia, costosissima sì, anche. Ma No, costosissima, no, costosissima, me le regalano, dai, per le feste, me le regalano per il compleanno. Tu, per esempio, una, per una camicia, quanto spendi? La 100 euro la spendi per una camicia? 100 euro? 100 euro costerà un bottone. 100 euro. Cioè, tu per una camicia spendi più di 100 no, euro? Scherzo, però costerà. Adesso, questa nel merito, cioè, non lo so. Ma perché in generale, secondo te, quanto si può spendere per una camicia? Non lo so, la 150, dipende, quanto? Di belle io ne ho tre. Le tre camicie, sì, belle, queste bottom down. Tre? Come fai? Le camicie si consumano. Poi ne ho altre diverse. Insomma, queste qui. Poi sui io 200, la 200. No, cioè, quanto 130, si può arrivare a spendere? Però io queste qui mi durano degli anni perché io faccio rifare i polsini, poi, ad esempio. Fai rifare, cioè, quando, i polsini? Sì, che costano 10-12 euro. Quando mi diventano lise, sì, sia, sì, il polsino che il colletto, che il collo, che, sì, è la parte fai rifare della tutto. Faccio rifare il tutto e quindi non è più come le scarpe. Io ne ho due paia, poi le faccio risuolare via via. Poi spendo tanto per un paio di scarpe, però poi le faccio risuolare, capito? Questo è. Allora, caro David, io non è che lo voglio fare apposta, per carità, per irritarti, non ti voglio mai irritare. Io sì, ogni tanto, sì, per gioco, eccetera. Ma però nel caso di Dominique, non vogliamo sì, parlare. Sì, sì, come no? No, assolutamente, io appoggio tutte le iniziative dei radicali sull'eutanasia. La storia straordinaria di Dominique. Sì, sì, per ne la parla. Quale Marco Cappato, Emma Bonino, sì, sì, tutto il gruppo. No, quelli sono, è morto. Tutto il gruppo radicale, liberale, liberista. Sì, è la battaglia classica per l'eutanasia, dai, su. Anticoncezione, no, sì, però, dicessero chiaramente una cosa, questi radicali. Che hanno aiutato Dominique, un tizio a morire. Bene, però lo dicessero chiaramente. È l'inno alla vita, in realtà. Sì. Perché noi, portandola a morire, diciamo viva la vita, morta lei, muore, ma risorge la vita del diritto nella morte della signora in Svizzera, sì. Radicali, liberali e speranza, sì. Benedetto però lo dicesse... Pasolini, sì, diceva libertà nella morte, sì. Don Benedetto Einaudi, conoscere per deliberare in esperanto la lingua transnazionale, transradicale e transbannella. Bannella, abbiamo capito, siete a favore abbiamo dell'eutanasia, non c'è bisogno di morire per vivere. Tu dovresti, sì, Gruciani, morire, sì, morire per far poi rivivere domani la zanzara da una, ma devi morire. Ma io non voglio, sì, morire in realtà. Morire ora, oggi, subito, per poi dire che vivi, ma prima muori. Poi dopo vivi, perché vive il diritto. Sì, d'accordo. Muori, ma fai vivere il diritto a morire, che è un diritto di vivere, però, del diritto. Scusi, Pannella, ma nonostante abbiamo spiegato il concetto, sì, del diritto, beh, perché sennò c'è la eutanasia del diritto, sì, non della però, morte. Pannella, non potete dire chiaramente che voi aiutate le persone a morire perché siete a favore dell'eutanasia, punto, certo, e basta, senza no, raccontarci tutte queste balle. Il diritto a morire, vabbè, lo ed è l'eutanasia, non è dolce morte della morte. È, sì, la morte dura del diritto che è morto e che noi facciamo rivivere. Vabbè, da radicali, capito, nella morte del diritto. Abbiamo capito. Della vita. Boh. Boh. Allora, un gentile signore che si chiama Luca, Parenzo, Luca. Luca. Luca, sì, attenzione, Cruciani e Parenzo addirittura, la nostra attenzione. Luca ci scrive... Cordero di Montefiore. No, un signore, secondo me anche un viaggiatore del mondo, chiamiamolo così. Ci scrive questa lettera insieme ad un pacco. Cari amici della Zanzara, il caso ha voluto che proprio mentre stavo ascoltando la puntata del 23 novembre, nella quale vi siete interrogati sull'uso del bidet, 23 novembre, dunque precedente alla puntata di venerdì, io mi trovassi in un negozio di Tokyo che vendeva proprio un gadget di viaggio adatto appunto alla pulizia intima. In Giappone c'è tutto, e sottolinea questa cosa qui, in Giappone c'è tutto. Mi sono quindi permesso di acquistarvelo e di mandarvelo. Sicuramente è più funzionale ed elegante della bottiglietta che il povero Parenzo dice di utilizzare in viaggio. Un caro saluto e buon lavoro. Ora ringrazia Luca innanzitutto. Ma non hai mai detto di usare bottigliette? Sì, una volta hai detto che utilizzavi una bottiglietta per andare in bagno, per pulirti. No, ho detto che mi tengo sempre in macchina le, sì, salviette umidificate. Manco una bottiglietta, hai detto, del una... bambino. E una bottiglia d'acqua che nel caso appunto, sì, non, sì, uno si lava le mani, ma per lavarmi le mani appunto. Vabbè, ma è uguale, insomma, una bottiglietta. Dunque ci ha mandato questo pacco, io te lo posso anche girare se lo vuoi, cioè, ma non ho bisogno, grazie. No, ma che, perché sei così? C'è un ascoltatore che ti ha fatto un regalo e sei subito così, ma negativo. Ma non voglio regali dagli ascoltatori. Ma perché? Ma è un ascoltatore denunziato, molto gentile, no, di Tokyo. Non voglio marchette, cose, regali. Ma no, allora, non posso accettare regali sopra i 100 euro ad esempio. Vabbè, ma che c'entra? Dai, questo conflitto, no, questo non credo, perché sono 1530, com'è che si chiama la moneta giapponese, lo yen? yen. Mi sembra, sì, 1530 yen, che non so quanto sia, 1530 yen, ed è una sorta di bomboletta. La cosa incredibile, David, è che tu non la puoi vedere, ma questa bomboletta ha una forma strana in alto, cioè nel disegno sulla scatola, cioè la forma strana che credo che sia la forma di un sedere, se non sbaglio, e poi sotto c'è la riproduzione della bomboletta che è all'interno, con tutte scritte giapponesi incomprensibili, perché naturalmente fanno di tutto pur di non far capire. Giapponesi è gente strana. No, ma c'è, cioè, questa bomboletta spruzzante, una specie di doccino portatile, capito, che tu riempi e poi lo fai per la pulizia intima. Incredibile, 1530 yen. Luca, grazie. Giovanni da Brescia, vai, 800 24 00 24, vai. Pronto? Giovanni, dimmi. Dimmi. Mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dai, parla. Ciao Cruciano. No, non è Cruciano, dirti. Cruciani, ho sbagliato. 11 euro costa, mi riferiscono 11 euro, 1530 yen, 11 euro. Vabbè, potevi spendere un po' di più, Luca, dai. Volevo dirti, tu la scorsa settimana dicevi che praticamente Valdo Vaccaro diceva stronzate, insomma. Beh, è uno che vuole curare il cancro con la vitamina C, più stronzata, okay, di questa. Io ti voglio dire questo, sai cosa? Tu credi, sai cosa? Credi nella scienza, no? Una scienza provata, matematica, ok? L'anatomia comparata è una scienza riconosciuta praticamente a livello mondiale, ok? Un certo George Christen, ok? Cooper. Okay, però Giovanni, qui non siamo. No, fammi parlare. Su, abbi pazienza. Questo Cuvier, sai che cosa ha detto? Che pratica, fondatore dell'anatomia comparata, che l'uomo è sotto ogni aspetto un animale fruttivoro e non è per niente come un animale carnivoro. Gli organi importanti dell'uomo ci mostrano come il nutrimento dell'uomo dovrebbe consistere solamente di piante. Il cibo naturale dell'uomo dovrebbe... E chi se ne frega di quello che ha detto questo signore? Esclusivamente su frutta, radice e verdure. Tutto il corpo umano, fino alla sua piccola parte, è destinata alla natura. Scusa, ma tu mangi un'alimentazione vegetale. Ma tu mangi solamente queste cose? Capisci? Ma tu mangi solo queste cose? Maggior parte di questo è coltivato nel mio campo. Nel tuo campo, vabbè, beato te. No, però tu non puoi dire che quando una persona ha ma tu sei quello della mosca, scusami Giovanni, sei quello della mosca? Sì, sono quello della mosca. Com'era la storia? Me la ripeti un attimo la storia della mosca, che me la sono dimenticata. Scusa. Praticamente... No, fammi finire. No, ma com'era la storia? Ma che ragionamento? La storia della mosca? Dai, raccontamela un po'. Dai, com'era la storia della mosca? Guarda, è tanto quanto la zanzara, perché più o meno sbattono le ali alla stessa velocità, capito? E dunque? E a te non te ne frega un cazzo. Però no, questa ma com'è? È una cosa che secondo me da apprezzare, capito? Perché come tutti i poeti e filosofi si praticamente ispiravano alla natura quando scrivevano poesie, uguale fa lo scienziato, ad esempio, che o il fotografo, per esempio, quando va a fare una fotografia. No, ma che c'è, com'era che batteva le ali, il culo? Com'era la storia della mosca? Ah, che potevi solamente, per quello che dici, diciamo, puoi solamente baciargli il culo alla mosca. Beh, capito? È un po' complicato. Ma è una metafora, cioè non materialmente. Sì, no, capito, cioè per quanto... Sì, però Cruciani, sai che lui capisce anche cosa che avevi capito l'altra volta. Ah, bancarotta, fraudolenta, quello è un lapsus, bancarotta fraudolenta. Quello è un lapsus, dai. No, ma capisco che possa essere una presa in giro, per carità. Ciao Giovanni, Sergio, Napoli, Sergio. Pronto? Vai Sergio, dimmi. Buonasera. No, volevo riallacciarmi al discorso della copertura, come giustamente lei faceva notare precedentemente, riguardante alcuni sacerdoti. Io ho un'esperienza diretta, lavoro in un ospedale religioso, dove praticamente uno dei dirigenti, anzi l'amministratore di questo ospedale, prete, è stato praticamente denunciato per molestie sessuali nei confronti di un dipendente. Vabbè, assolto e quindi nulla questia. Sì. Ha rubato letteralmente circa 200.000 euro restituiti alla Bertone successivamente, e poi allontanato dai vertici ecclesiali, dalla struttura, eccetera. Ce lo siamo ritrovati dopo neanche sei mesi, lindo e pinto a riamministrare, tra parentesi, in maniera allucinante, il nostro ospedale. Vabbè, ma cioè, questo che vuol dire? Che collegamento c'è con la storia di pedofilia che abbiamo raccontato prima in Calabria? Scusami. non vorrei entrare nel campo delle abitudini sessuali di questo signore, ma voglio dire, la copertura, io mi riferivo alla copertura. No, ma la copertura, vabbè, in questo caso però non c'entra niente la pedofilia nella vicenda che hai raccontato. No, la pedofilia assolutamente non c'entra niente, perché la persona molestata era maggiorenne, quindi non era assolutamente un ragazzino o un bambino. E allora? E allora praticamente che attorno a queste figure ecclesiali si crea praticamente un cerchio che si chiude sempre a favore loro. Sì, no, ma spesso, spesso è così, ovviamente poi le cose... No, fondamentalmente è questo. Va bene, Sergio, ho capito perfettamente. Ti è capitata una vicenda in cui hai visto un signore che... No, è capitata a me, insomma, era una testimonianza di riferimento che i preti, tra virgolette, insomma, è brutto pure dire i preti, però alcune figure ecclesiali vengono sistematicamente coperte dai loro vestiti. Va bene, Luciano, Vicenzo, ho capito, Sergio. Luciano, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi, ciao, dimmi. Ciao caro. Ciao. Sempre il discorso di Oppido Travertino lì. Sì, sì. E il prete e il vescovo, secondo me, davvero fare come facevano con gli eretici una volta che davano fuoco alle donne considerate streghe. Ecco, te lo dico in Veneto, bisogna scappare fai coglioni e larghi fuoco in piazza. Cioè, che sì, anch'io ho capito. Cioè, strappare i coglioni e dare fuoco in piazza. Cioè, no. Legarli i coglioni. Ah, legarli. Legarli dalla parte dei coglioni. Com'è che bisognerebbe fare? Ecco, non ho capito. Sì, legarli per i coglioni e dargli fuoco. Legarli per i pedofili, cioè appesi, così trattare i pedofili secondo Luciano. Secondo te è una cosa che può essere fatta sul serio oppure no? No, perché... non può essere fatta sul serio, chiaramente. Però, cioè, però tu sogneresti una soluzione del genere, tu dici? Se sogna l'appendimento sogno, per i coglioni, però, l'appendimento per i coglioni. Però a un certo punto, visto che sti qua ogni giorno è salta fuori uno, visto sono parecchi, insomma, che girano. Vabbè, Michele Torino, vai, Michele. Buonasera. Dimmi. Salve. Allora, io volevo arricchire la discussione della settimana scorsa riguardo all'igiene intima. Sì. Però parlando... Che mestiere fai tu? Io sono podologo. Podologo? Podologo i piedi, però non c'entra niente con la proctologia e con altre cose. Scusa, il podologo. Sì, io direi, qualche volta io mi sono lavato i piedi nel bidet, quello è normale però, Parenzo, cioè lavarsi i piedi nel bidet, no? Lei che è podologo, dove consiglia di lavarsi i piedi? Beh, io direi facendosi bene la doccia. Ah, tu dici nel bidet non vanno lavati i piedi? Ma se viene accuratamente pulito, sì, si può fare. Si può fare, ma insomma io sì. No, ma io in realtà volevo... spiegare sulla c'è un tizio che mi ha mandato un messaggio durante fine settimana, mi ha detto io mi lavo i piedi nel bagno aziendale. Sì, ti giuro, mi lavo i piedi o le mani, il sedere, no? Mi lavo il sedere nel bagno aziendale, ma nel lavandino dove tutti quanti si vanno a pulire le mani. Si vede che vale bene alla sua azienda ti giuro, è il numero uno questo, assoluto. Vabbè, podologo Michele, che ci vuoi dire? Volevo spiegare a tutti la posizione corretta in realtà per andare in bagno. Perché questo è interessante, realtà... però questa è una nozione tecnico-scientifica che mi mancava. Io non sapevo che ci volesse una posizione corretta. Sì, perché l'anatomia umana non è fatta per defecare in posizione seduta. Ah, cioè bisognerebbe farlo in piedi, secondo te? No, accovacciati. Perché ma accovacciati che vuol dire accovacciati? In piedi, cioè a mezza altezza. No, spiego. Allora, praticamente la posizione corretta è quella in cui il retto, la parte terminale dell'intestino, si trova in posizione verticale. E questo la si ottiene in accovacciati, come sulla curca. Sì, no, ho capito, però il problema... Il problema è che sono state nel corso della storia inventate delle cose che si chiamano gabinetti, che si chiamano Vespasiani all'epoca. No, Vespasiani è un altro discorso. Bagni, però. Cioè no, l'uomo... No, Michele sta dicendo una cosa, il podologo però non è l'ultimo degli stronzi, sta dicendo... Ma è questo chi l'ha detto? Sì, questo è vero, anche i podologi possono essere stronzi. Come tra i giornalisti. Non è che... Cioè, secondo te la posizione ideale non è né a contatto con la tavola del water, diciamo, né in piedi, ma è come a mezza altezza, sospesi, come uno, se uno c'ha un problema di gambe, no, si fa, no, non è bello. Michele, io non ho capito ancora qual è questa posizione corretta. La posizione corretta, se noi ci sediamo sulla tazza, è quella di sollevare o i talloni, sì, sulla coscia, sì, oppure da mettere i piedi sopra un oggetto che li rialza. Cioè, okay, in modo da cercare per la posizione. Cioè, ma cercare la posizione dunque staccata dalla tavoletta, non ho capito. No. Ti siedi. Ti siedi. Poi sollevi i piedi. Sollevi i piedi, dunque sollevi anche il di dietro, no? Sollevi i piedi. No. Ah, sollevi i piedi. Poi cerchi la posizione quella lì da accovacciato. Perché quella posizione lì, la parte finale dell'intestino non viene sforzata. Ah, e vabbè, per non sforzare il coso. Bah, Parenzo, io credo che quando uno si siede lì non ci pensa a queste mi cose. Mi pare un consiglio non richiesto, però no, ma uno non ci pensa oggettivamente a queste cose, no? Non è che uno si siede là, magari va anche di fretta, non è che pensa a queste cose qui. Comunque, ma bisognerebbe pensare. Cioè, tu ci pensi, tu quando vai in bagno fai così? Beh, sì. Cioè, ti fai questo lavoro sui talloni, no? Ma sì. E quello va a conservare di più per evitare emorroidi e altri problemi. Vabbè, oh, Parenzo, però sinceramente se uno può evitare le emorroidi non è un consiglio, no? Ma riguarderà, ma io non ho capito. Registra, bisogna anche registrare anche questa cosa, riguarderà, questo qua ha dato un consiglio, accettiamo questo consiglio. Ah, no. Grazie, il problema benissimo. Grazie. Parenzo è solleticato dall'argomento, ma non sono solleticato per nulla. Non ho mai subito né problemi a cui lei ha fatto riferimento poc'anzi. Esatto, ma questo cioè, nemmeno io, devo dire. Una cosa che fino ad oggi, per carità, mi ha riguardato. È anatomia, è scienza. Ma benissimo, e ho sempre praticato i miei bisogni quotidiani una volta al dì, la mattina, come prima hai di sempre colazione, detto, sì, se senza volete, badare alle posizioni, alle cose, eccetera. Però, poi, per esempio un nostro carissimo ascoltatore mi ha mandato un messaggio: ha ragione il podologo, lo faccio anche io. Sarà bagatto. È giusto. No, è giusto, che è bagatto, un altro. E la posizione lo faccio anche io, vabbè. Perché l'anatomia umana è fatta così. Vabbè, Michele, ma i consigli sono sempre ben. Ma io volevo solamente arricchire la discussione della settimana precedente. Gentile. Grazie, ciao. Ma che succede? C'è un cadavere, ecco che c'è. Ma quale cadavere? Su, è un normalissimo coniglio che sta per essere cucinato, tutto qui. Ma perché? Perché se le conosci benissimo le regole di questa casa? Rita, per favore, non te ne uscire proprio stasera con le tue stronzate vegetariane, eh? Il coniglio al forno è il piatto preferito di Rolando e noi stasera ci mangiamo quello. Se tu non vuoi c'è la cosa, la cacio e pepe, oppure ti mangi le patate, che quelle t'assicuro che non sono state torturate, d'accordo? Perché hai comprato questi? Avevo ordinato quelli vegetariani, perché? Erano finiti. Erano finiti? Sì, erano finiti. Beh, strano, perché ho detto al negoziante di mettermeli da parte. Di la verità, tu non l'hai comprati per il prezzo, eh? Vuoi la verità? Sì. Sì, non l'ho presi per il prezzo, sai perché? Perché trovo immorale, trovo assurdo spendere 70 euro per dei cazzo di croccantini vegetariani! Oh, ma settimana scorsa 300 euro di veterinario, ma quel cane costa più di un cavallo da corsa. Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini, lo ma sai? Ma che cazzo me ne frega, Rita? Ma Cico è un cane e i cani da che mondo è mondo sono carnivori. Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane. E che cazzo? Allora, Gianmarco Tognazzi con noi, ciao! Terapia tapioco! Che come fosse tapioco? Antani, ah, beh, sì, con lo certo scappellamento a destra. Certo! Hai incontrato un altro qua, Parenzo, che è malato. Ma è prematurata la supercazzola o...? O scherziamo? Ma la vedi che stuzzica? E brematura anche. Va bene, dai, usciamo da questo impasse. Ciao, come stai innanzitutto? Benissimo, grazie. Voi? Bene, non c'è male, sempre. Teniamo botta, stiamo meglio del padre della Boschi, ecco, diciamola così. No, ma che c'entra adesso il padre della Boschi? In questo momento, come ti senti? Sta benissimo il padre della Boschi. Beh, insomma, finito sui giornali, così dai, vabbè, magari è saltato io, da questa cosa. Tutti lì, no? Ad Arezzo che lo vogliono, che non esce di casa, secondo me, dai. Allora, io voglio dire, il film da cui abbiamo estratto quelle parti là, sì, meraviglioso, che riguardano crocchette vegane, che era l'altro, il coniglio? Cioè, il coniglio al forno. Che il coniglio al preferito. Forno uscirà, speriamo, la prossima primavera, sì. Si chiama Il Ministro. Io voglio capire una cosa però, nella vita privata Gianmarco Tognazzi, sì, che è uno dei protagonisti di questo film, lo magna il coniglio o no? Sì. Ragazzi, confessa. Ma cioè, devo essere sincero, sì, ma non è, voglio dire, che vado in cerca dei conigli A parte che sono pieno di conigli, proprio li possiedo in lo so, nel per polaio. Questo sì, però non me magno quelli, quelli non me li mangi, ma non... Perché non te magni i tuoi, scusa? Ma no, perché quelli sono conigli ariete, sono conigli diversi, sono conigli quelli, diciamo, da compagnia, da casa. Sì, più o meno. No, vabbè, stanno nel pollaio, perché il pollaio è il posto. Cioè non ci dormi insieme, non li fai dormire con i figli, no? No, c'è un limite, già c'ho Pluto, mi sembra eccessivo poi i conigli. Però te li mangi lo stesso, cioè i conigli vai in macelleria e ordini il coniglio. Ma sì, ma per esempio i miei figli, che amano molto gli animali, l'animale preferito dei miei figli è il cavallo, no? Sì. Però se lo mangiano. Cioè se mangiano pure il cavallo? La carne del cavallo. È molto buono in tutti i sensi. E però adorano il cavallo. Però vedi, Parenzo, questa è la prova di quello che io dicevo prima. Cioè anche i cacciatori, io lo dico all'estremo, no? I cacciatori che sembrano, qui subito mi hanno scritto Bagatta, grande amante degli animali, mi ha scritto questa è una cazzata pazzesca, non è vero, è una boiata colossale. Invece non c'è cosa più vera di questa. Anche i cacciatori, soprattutto i cacciatori, sono amanti della natura e degli animali, molto più magari di finti animali. La stessa cosa è per chi ama gli animali e ce l'hai in casa, come Gianmarco Tognazzi, insieme ai suoi figli, i quali mangiano tranquillamente la carne anche di cavallo, che è molto discussa, eccetera, eccetera, o anche il coniglio, e amano conigli e cavalli, giusto Gianmarco? Posso dire una cosa, però, secondo me l'unica differenza sta nella selezione di quello che uno va a mangiare. Tu sai che io, come secondo me, mi spendo proprio in questo, no? La filosofia del mangiare, che poi è tramandata da Ugo. E quindi voglio dire, l'unica cosa sulla quale dissento sulla carne sono, come dire, quel tipo di carne che non ha una sua naturalità, ma viene, come dire, fatto in batteria, ma non per una questione, non solo per la questione legata al maltrattamento dell'animale. Ma che vuol dire carne in batteria? Per esempio, cos'è che non mangi perché ti sta sulle palle? Ma nel senso che se devo mangiare la gallina o il pollo, vado a cercare, come dire, l'allevamento dove so che il pollo è fatto in una certa cerco di stare attento a mangiare della carne che sia carne che so che proveniente allevata bene. Cioè, con tutto il rispetto, non compro la carne al supermercato, ve lo dico francamente. Magari è buonissima, non voglio dire che, però preferisco andare ma non per questioni etiche, però la questione etica legata all'allevamento in batteria è che non mi convince sulla, come dire, bontà della carne. Sì, ho capito, non perché ammazzano gli animali in un certo modo, li trattano male, purtroppo ragazzi, se uno è, allora, come c'è grande rispetto per le scelte sia religiose che etiche che morali di ognuno, però deve essere, come dire, bionivoca la cosa, non può essere univoca. Cioè ci deve essere rispetto da parte dei carnivori, di chi fa una scelta vegetariana e vegana, ma viceversa ci deve essere una, come però dire, diciamo, un rispetto. Sì, ho capito, ma diciamo la verità, quella pezzo di film che abbiamo sentito sulle crocchette vegane, oltre che è un film naturalmente, però ci credi in quella cosa là? Cioè il veganesimo è una roba da ricchi, portato a quei livelli. Insomma, non so se da ricchi sicuramente sono entrato, perché ho un fratello mezzo vegetariano, quello norvegese, e tutta una schiera di vegetariani vegani che vengono dal nord Europa, e devo dirti che sono andati a fare la spesa, hanno speso veramente una cifra immonda, quindi voglio dire, sicuramente fare quella scelta comporta anche probabilmente un dispendio. Cioè, sono andati a fare la spesa, che hanno fatto? Hai visto i conti che hai fatto? Insomma, se sono comprati poca roba, hanno speso di 100 euro. Ma è così, ragazzi, ma ha chiamato una scuola. Per ora costa, ripeto, così. Poi io non è che sono contro, tu sai che sono molto amico di Red, mi ha fatto fare una cena vegana meravigliosa, per carità di Dio, quindi non è che sono contro. Però non mi piace questa lotta intestina tra l'uno e l'altro. Io sono più per, come dire, il vivi e lascia vivere in tutti i sensi. Sì, no, poi ti guardano strano, no? Ti guardano male, ti considerano un assassino. Non tutti, non tutti. No, ma non tutti, però. Alcuni, sì, però diciamo molti, che... dai, molti vogliono convincerti che tu sei un assassino. Che non sai quello che fai. No, ma che non sai quello che fai, cioè che non sei consapevole. Questa è la parola che mi fa impazzire, non essere consapevole. Non sei consapevole, ma che non so consapevole, sono più consapevole di te. Leggo molte più cose di te, solo che voglio continuare a mangiare la carne, perché poi uno può decidere anche di morire come vuole o no? Cioè, questo, scusami, era proprio, come dire, alla base del film La Gran Bu, no? Stupendo, la grande abbuffata. Io so che prima parlavate di merda, no? Giusto? Ma tu come ti pulisci il sedere? Beh, come tutti, spero. No, ma così una domanda. Diciamo in maniera naturale, con la carta igienica, credo. Cioè, che non sia. Con le mani, non a mani non nude. Con le ortiche. Beh, a mani nude non mi sembrerebbe il caso. Però voglio dire. Ma io l'ho che... sempre fatta a mani nude, ma che devo fare? Ma cioè, non trovo nessuno che la pensa con me. Cioè, ma sì, ho incontrato uno. Sai, vi devo raccontare. No, vi racconto una roba incredibile. Allora, Pupo lo fa come me, me l'ha detto l'altra con sera. Le mani. Con le mani, a mani nude. Ceccherini, ho incontrato a Trieste sabato Ceccherini, mito assoluto. Parla cioè... di un maiale, però dai. Ma perché adesso? Perché un maiale Ceccherini? Non è esattamente cresciuto alla corte della regina Elisabetta. Voglio dire, non occorre crescere alla corte della regina Elisabetta, è il signor Ceccherini. Signor Ceccherini mi ha detto: ma quando mi chiamate? Quando mi chiamate che vi mando a fare in culo? Quando mi chiamate? Altra poco, fermo là. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. La Zanzara. Quando cago in ufficio, me la vado a lavare il culo dentro al lavandino, dove i miei colleghi, dopo la pausa pranzo, si vanno a lavare i denti. Questo, Parenzo, questo è veramente... Cioè, andrebbe denunciato l'autorità giudiziaria, questo qua. No, andrebbe capita qual è l'azienda. Forse il Sole 24 Appunto, no, non credo che... No, ma io lo dico ai tuoi... Visto che tu stai a Milano, lo dico a loro. No, ma non credo. Cioè, questo qua è un tizio che ha lasciato un messaggio. No, ma mica ha detto che sia questa azienda o questo luogo qui. No, ma un messaggio X di una persona che è arrivata al mitico numero 393-71-71-701, il quale ha confessato di fare questa porcheria. Ma guarda che le cose che succedono in un grande building, in una grande azienda, all'interno dei meandri, sono infinite, cioè dal sesso fino alla pulizia, fino alle cose, sono pazzesche, c'è tutta una filosofia intorno a queste cose qui. Che ne sa Tognazzi, che vive in campagna a Belletri? Ma come no, ma ne so, vissuto per anni in città. Comunque guardate che la propria merda fa in genere meno schifo della merda altrui, eh? Beh, quello sì, quello è scontato. È un aforisma, però, che me lo scriverò in bagno. No, però Gianmarco, mi sembra abbastanza chiaro. No, ha ragione, no, è un dato di fatto. Ma sì, assolutamente antropologico, direi. Quasi vi posso fare una citazione riguardo a questo, legata a Ugo, per farvi capire 40 anni fa già che diceva. Ecco, ottimo, sì, andiamo a riprendere, vai. Allora, diceva questo. Riesumiamo quella morale epicurea della gioia della vita che fece grande la romanità e il Rinascimento. Riavviciniamoci con partecipazione al flusso ininterrotto e secolare della bava, dello sperma e della merda. Recuperiamo, nel caso del cibo in particolare, una dimensione che si sta sempre più disfacendo, assediata com'è dalle schiere dei liofilizzati, dei surgelati e degli inscatolati. Una volta c'era una nonna, una mamma, una campagna e un orto. Ricreiamoli, dipende da noi. Scusa, ma la citazione della merda che cosa aveva a che fare? Cioè, era una metafora? È la metafora di riavvicinarsi, come dire, a tutte quelle cose che fanno parte della vita, no? Cioè, ritroviamo una dimensione più a misura d'uomo, ma questo lo diceva quando ancora bisognava entrare nella logica dei supermercati e quando ancora non si parlava né di chilometro zero né di biologico, quindi voglio dire, un grande anticipatore anche in questo senso. Senti, vabbè, sei il figlio d'altra parte. Figlio, ragazzi, quando Ugo parlava di cucina gli altri lo prendevano in giro, adesso parlano tutti di cucina. Cioè, potrebbe, cioè, se fosse vissuto nell'epoca di MasterChef, gli farebbe schifo MasterChef, secondo te? Non so se gli farebbe schifo, però direbbe sicuramente: vabbè, lo facevo io qua 50 anni fa e li pigliavano tutti in giro. Perlomeno abbiamo a Ugo quel che è di Ugo, è arrivato sempre prima su certe cose, no? Senti, ma sono curioso di sapere una cosa. Hanno scritto che hai litigato, non che una cosa ci freghi qualcosa, con Alessandro Gassman, i due figli che litigano, che hanno litigato, hanno rotto, cioè figli, sì, è vero basta, o no? Basta, è finito tutto. Finito, era molto tuo amico Alessandro. Finito il vostro rapporto. È verissimo, abbiamo litigato, ci odiamo. Falso. Ma perché? Tutto falso. Ma non è vero allora, se è per questo litighiamo dal primo giorno che ci siamo incontrati, ma non è quello, non sarebbe neanche una notizia il fatto che lui... Cioè, ogni tanto litigate. Ma sì, ma non è... però quello che è stato detto, si sono incrociati dietro una trasmissione, neanche se sono salutati. Io sono rincoglionito, gli ho detto: ma te ti ricordi sta cosa? Dice: ma quando mai? Cioè, ma no, ma è una montatura, però voglio dire, sotto Natale ci sta, così tanto per parlare. Ma ogni tanto vi litigate a morte tra di voi, lo mandi a fanculo, vi mandate a fare in culo o no? Sì. Ma come te, David, cioè, quando si è amici, se non ci si manda a fanculo non si è amici, ragazzi. No, cioè, pure questo non... è vero, pure questo è vero. Cioè, se non ti mandi a fare in culo con qualcuno. Senti, ma sono curioso di sapere, tu sei romano, però poi c'è tutta la cosa di tuo padre, eccetera, eccetera. Ma milanista, eccetera. Uno come Salvini, tu lo voteresti? Tu sei anche abbastanza libero da tutta questa cosa sinistroide del mondo? No, ma lui Salvini, guarda, no, io non ti so dire se lo voterei, perché per così, per, a prescindere, non c'ho più voglia di votare perché mi sono un po' rotto le palle. Però detto questo, ci sono delle cose che dice che ogni tanto non sono del tutto sbagliate, ci sono degli eccessi che non condivido, però ogni tanto vedo anche che insomma si aumentano sempre un po' i toni. Vabbè, ma chi ti piace a te adesso in politica? Cioè, c'è già uno che ti piace, che ti dice, vabbè, ma, cazzo. Ma io sinceramente credo che voterò la lista Zanzara. Beh, siamo qui, la lista Zanzara a Roma, dove non voterai. Si vota a Velletri o no? Tu dov'è che sei residente? A Velletri, però Velletri. Se c'è una lista Zanzara a Velletri, se mi candidate mi candido. Beh, fare il capolista, stupendo. No, a sindaco, candidato a sindaco. Capolista. È vero che quando esce il film Il Ministro, secondo me, sono bruciato, perché no. Comunque, insomma, l'hai capito l'argomento qual è di quel film? No, ma io ho letto solo queste cose. Dimmelo te, qual è? Ma vabbè, semplicissimo, è un uomo, un imprenditore ormai sul lastrico, preda, come avrei sentito dai toni, anche un po' un esaurimento nervoso, che però ha conosciuto questo politico con il quale ha un affare in ballo che gli potrebbe cambiare le sorti economiche della sua vita, e quindi organizza una cena a casa sua, cioè a casa dell'imprenditore che sarei io, perché gli acchitta tutta una seratina, e dove chiaramente tutti quelli che sono intorno, a cominciare dalla moglie, quella sera non devono rompere i coglioni e ad accondiscendere a qualsiasi tipo di cosa nei confronti del ministro, e ne succedono di tutti i colori. Per cui voglio dire, siccome insomma è un film che tratta argomenti, per carità, di commedia, noir, quello che vuoi, oltretutto il ministro è Fortunato Cerlino, no? Il vecchio Savastano di Gomorra, vecchio ma, nel senso. Ma tu lo sai che adesso mi hanno mandato, Gianmarco, una foto, guarda che gli ascoltatori sono incredibili, c'è seduta occidentale con la X sopra, rossa, con la X rossa sopra, cioè quella che non si deve fare, Parenzo, quella che faccio io sempre, cioè seduta sul cesso occidentale, cioè la posizione classica, no? Cioè ti siedi sopra, normale, con la schiena dritta, così. E poi accovacciati o batera la turca, che è quella giusta, cioè che è quella in piedi, cioè, perché nel primo caso i muscoli strozzano il retto, nel primo caso della seduta occidentale, nel secondo caso i muscoli si distendono e il retto si distende a sua volta, cioè tu ti rendi conto, uno prima di andare in bagno dovrebbe pensare a queste cose, cioè, no, sinceramente lo so, però molto. Ti mando questa cosa, ciao Gianmarco, ciao. Andiamo in provincia di Messina, Lucio, vai. Allora, io volevo intervenire per dire al suo collega che poco fa, da buon paggetto, da buon tromba. Ma che è sto rumore? Dove sei, Lucio? Non ho capito. Sono fuori, c'è un cane. No, dicevo che volevo dire al suo collega. Ma in provincia di Messina dove? Non ho capito da dove. Castellumberto, provincia di Messina. Sì. Volevo dire al suo collega che fare ironia stando dalla parte di chi comanda non fa ridere. Quale sarebbe tutt'altro. Chi comanda? Per cui il suo collega, che vuole giustamente servire bene Renzi, che è la parte politica alla quale appartiene, pur di attaccare il Fatto Quotidiano, poco fa ha detto una scemenza palese, ovvero sia che i giornalisti, che il Fatto Quotidiano aveva criticato, ho fatto una battuta sul video, come hanno messo in modo divertente il video, quelli del Fatto Quotidiano, sono degli amici. Io non so se, ma lei l'ha visto il video o no? È delinquente o meno, ma lei lo ha visto? Da 20 anni che mangia, che mangia con i soldi delle mie tasse senza fare un cazzo, ma lei è completamente dalla mattina alla sera. Ma lei è fuori dalla qualunque logica. Aspetta. Con la sua Lega, perché istiga sta parlando di Salvini. Che appartiene a un partito che si è mangiato una banca, la Credi Euro Nord, uno che è segretario di un partito che ha tolto la costituzione di parte civile nei confronti di Boccia al processo per i fondi che si sono fregati. Io non lo so se è delinquente, perché in Italia i delinquenti sono solo i poveri, però quell'ironia ha capito, ci sta male perché il Fatto Quotidiano è l'unico giornale degno di questo nome in Italia, al di là di quello che Cosa c'entra con Parenzo tutto questo? Scusa, non ho capito perché bene. Perché Parenzo poco fa ha fatto ironia. Ma no, ma era un'ironia che non aveva niente a che fare, con una critica al Fatto Quotidiano, nulla, zero. Cioè, hai capito male, Lucio? Ma non ce l'aveva, ma ho capito, ma hai capito male, ti assicuro che. Vabbè, comunque chi se ne frega. Stai parlando di un'altra cosa, di Salvini. Di Salvini, che è una persona che da oltre 20 anni sta lì a mangiare. Organico del potere, che fa parte di un partito che si è fottuto una banca, la Credi Euro Nord, che ha tolto la costruzione di parte civile al processo. Vabbè, questo, ma si è agitato, però si presenta come il nuovo, è una cosa vergognosa, e coloro che lo votano e gli credono sono dei coglioni. Cioè, ma a voce alta questa cosa. E vabbè, perché ma lo puoi dire qui. Parecchi che ascoltano. Qui lo puoi dire tranquillamente. Non sarà un delinquente, non lo so, perché ripeto, in Italia con questo sistema di potere, che è un'associazione a delinquere, questo sistema di potere che abbiamo, un'associazione a delinquere. In Italia i delinquenti sono solo i poveracci che non si possono permettere grandi processi, grandi avvocati, per cui Salvini. Però di fatto la Lega istiga all'odio razziale da oltre 20 anni. Va bene, Lucio, e ciao. No, ma ho capito. Per mantenere... Abbiamo capito, hai fatto questo, hai avuto pipone, questo tuo sfogo, Pippone, per carità, contro la Lega. Qui accogliamo tutti. Anche Lucio dalla provincia di Messina, ma non voglio dire che tu hai torto, in alcuni casi hai anche ragione, cioè su quello che era la Lega prima e su quello che è la Lega oggi, hai perfettamente ragione, però io dico che l'abilità politica, questo lo dico al di là del giudizio, no? Di Salvini è stata proprio questa, cioè quello di far apparire la Lega come qualcosa di nuovo rispetto al disastro. Ma di è prima. Nuovo rispetto al passato, infatti. Luca da Genova, dai Luca. Ciao. Dimmi. Era per l'intervento sul discorso dei preti pedofili. Io sono stato in collegio tanti anni a Torino, sì. San Giovanni Battista della Salle, per la Salliana. Scelgono molto bene le loro prede. Io non sono così convinto che tutti sono proprio malati. Loro sono consapevoli e purtroppo non si fa... Consapevoli che significa? Consapevoli di quello che fanno. Sono consapevoli, scelgono le loro prede. Beh, sì, questo non significa non essere malati, cioè questo, tante volte. Sei stato molestato tante volte, che significa? Sì, tante volte ai preti, 8 anni di... Ma molestato che vuol dire? Toccato, violentato? Tentativi di bacio, di spogliare, toccare i genitali, queste cose qua. Ma anche tentativi riusciti oppure no? Sai, quando c'hai 11 anni, 12 anni... Non puoi opporti più di tanto. Poi insomma lo prendi con poi ti danno una sorta di qualche privilegio, Non ho capito, sei stato molestato dai preti quando eri in collegio, questa è la sostanza. Sì. Hai denunciato, i tuoi genitori hanno denunciato, qualcosa mai? No. Poi come tanti in collegio, figli di genitori separati. Non ti viene neanche in mente. E dunque? Fa parte di un sistema e niente, e quindi devono essere Ma dov'era il collegio? Scusa, il collegio dov'era? Torino, i Lassalliani. Loro hanno I Lassalliani a Torino. Va bene, dunque, cosa vuoi dire? Che secondo te non è questione di malattia? Poco è malattia. Io ho avuto questa percezione fortissima. Loro hanno. Scelgono bene, sono lucidi, loro sanno. Sì, ma la malattia non significa che uno non capisce niente. La malattia della pedofilia. Qualche volta i pedofili sono sadici, scelgono perfettamente e scientificamente la loro vittima. Comunque, la cosa incredibile è che escono fuori adesso tutti questi casi. Cioè, per carità, sono sempre esistiti, è vero, e lo testimoniano queste telefonate. Però ora. Se non credessi nella vostra veramente libertà, non l'avrei mai chiesto. chiamato. Mi no, mai ma appunto è di interessante. Dire al telefono una cosa no, ma immagino, ma io adesso non sto dicendo conto di lei, anzi, dico semplicemente che è interessante il fatto che adesso escono fuori da ogni parte d'Italia racconti. Sembra che come dire, che le chiese in tutta Italia siano un simpatico ricettacolo di molestatori. Beh, io sono sicuro. Sicuramente erano, cioè, incredibile, COVID. Abbastanza incredibile. Sì. Comunque, per anche carità, anche perché io so che non ero l'unico, e tanti miei, diciamo così. No, ma è così, molti collegi, in molti collegi, ragazzi, non ci no, non neghiamo questa roba qui, erano covid pedofili spesso, sì, non si può negare questa cosa qui. La per chiesa era proprio una manna, la chiesa è stata spesso una centrale della pedofilia, ma è così, è oggettivamente così, ma ha ragione Toscani da questo punto di vista, sì, Oliviero sì, Toscani, è vero, ma è così, vero. Ma è normale che sia così, quando ti concentro tutti gli uomini insieme, amico mio, ma è normale. Non mi sembra di dire una boiata. Ciao Luca, grazie. Ciao. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. La Zanzara. Cerchiamo di chiamare Vittorio Sgarbi per il solito appuntamento quotidiano sulle sue condizioni di salute. Pronto? Guido? Sì, chi è? Sono Cruciani, ciao. Ah, ciao Cruciani. Mi passi Vittorio, aggiornamento salute? Aggiornamento salute, non è a posto, l'ho appena portato qua a casa. Ah, è a casa, è uscito? Sì, no, è uscito, dove ci sono i genitori. Vabbè, passamelo un attimo. No, non so con lui adesso, che sono in macchina, gli ho fatto una commissione al supermercato. Ma dove sta? A letto, dove sta? No, no, è a posto, lo puoi chiamare. No, ma è a letto, dicolo. No, è in piedi, lì di vita, fa. Ma che c'ha, intubato? No, è tutto normale, sta meglio di me, sale. Sì, mi distrugge, diglielo che mi distrugge. Ho distrutto io, lui, sembra che io ho fatto l'operazione. Vabbè. ciao. Tocca chiamare casa, Ro Ferrarese. Pronto? Oh, t'hanno liberato! Liberato, sì. Finalmente libero, scarcerato. Sì. Come hai passato le ultime ore in ospedale, Vittorio? Ma c'era un sacco di gente, sono arrivati un po' di quadri, di sculture. Quadri? In ospedale? Per arredare gli spazi. Poi com'è? Ha minacciato il suo arrivo Berlusconi perché ha fatto la solita fila. Sai, io ho pensato di venire a trovare, sì, e sarei venuto. Però non c'è un aeroporto perché vedevi in macchina, era lungo, c'era nebbia. Allora io mi dispiace, poi metto sul telefono e un medico si guardi. Guarda Vittorio, c'è l'aeroporto, è proprio qui dentro l'ospedale, c'è l'aeroporto. Vabbè, t'ha raccontato una cazzata, dai, al solito, dai. L'ho richiamato, diciamo, allora vengo, poi ho trovato la nebbia, non riuscivo ad arrivare. Però di fatto l'abbiamo sgamato. Comunque, sei stato più chiamato in questi giorni di quanto non lo si... Prima ancora che chiamato, ho visto quello che da tempo speravo, cioè di morire e poi non essere morto e vedere quello che capita dopo. Perché ho ricevuto la qualità tale, i necrologi, che erano tutti indirizzati a me, vivo, ma come se fossi morto. Che ho capito come sarà quando muoio. Quelli che appariranno, quelli che latiteranno, quelli che chiameranno. Quindi, ma scusa, adesso come sei a casa? No, sono perfetto, ho tolto tutto, sono rimasto intubato fino a 2 ore fa. Ma non ti hanno detto di stare fermo, figuriamoci. Beh, no, di fermo nel senso di non fare chissà che cosa, però non è che... Quello sì, però ti rimetterai subito in moto come prima, cioè farai il tour d'Italia. Tu hai intuito il mio intendimento, nel frattempo mi sono rimesso da Urbino l'assessore. Ah, ma che è successo lì? Non ho capito. È successo che hanno buttato in politica una cosa che era una cazzata e che oggi la sovrintendenza, come io dicevo, ritenuto abusiva, che è sai che oggi con il problema del conflitto col Natale, col presente, tutte le sensazioni più ipocrite e perveniste fanno dei finti alberi, fanno delle piramidi, fanno dei missili, fanno delle supposte, ma anche a Urbino invece di un albero c'era una supposta e quindi oggi è arrivata la dichiarazione della sovrintendenza che devono smontarlo, quindi il mio trionfo è totale, però nel frattempo vedo la buttata in politica, io non lo toglierò mai, dice quella che ha fatto l'assessore alle mie spalle senza dirmelo. Per cui per evitare di fare queste... Ma com'era? Orrenda questa roba qua, questo no, di una bruttezza sordida. Vabbè, sì, ma non accalorarti troppo però, cioè non sei appena uscito da un... Dopodiché sono arrivate varie persone, mi ha chiamato oggi il cardinale. Chi? Un cardinale di Ancona che era vescovo. Sì. Però tu mi nomini sempre i cardinali, Vittorio. Io penso sempre, non so perché, quando vedo un prete in questo periodo penso solo alla pedofilia. Volevo capire che ne pensavi. Vabbè, no, questo. Penso che la pedofilia è un reato penale grave. Vabbè, d'accordo, quello certo. Ma c'era quella battuta divertente che diceva: sai perché i preti odiano i comunisti? Perché? No. Perché si mangiano i bambini. Quindi è una storia vecchia. Io per esempio, da 12 anni, sono stato chiamato dalla camerata dove dormivamo, dal prete che insegnava latino e italiano, che era un prete, il quale si è avvicinato a me e ha fatto sentire la sua barbetta sulla mia guancia. E sono andato via, la cosa è finita lì. Allora, quando l'ho raccontato, l'adulto l'ha letto, già, chissà quanto hai sofferto. No. Io non ho sofferto niente, ho fatto una cosa. Io credo che molti abbiano più o meno, salvo le violenze, sentito quest'aria un po' untuosa, sì, e siano usciti tranquillamente, essendo persone che avevano la loro capacità reattiva. Ma tu dici che molte storie sono inventate, cioè sono esagerate? No, sono state amplificate perché, si è capito? Cioè, quando leggi le intercessioni di Gelmini, in cui lui diceva a questi ragazzi: ma come sei bello con i capelli più corti, più lunghi, lasciati carezzare, delle cazzate per la di un poverino. Diventa: ah, abbiamo patito un trauma. Che cazzo di trauma? Ma che trauma hai patito? Vabbè, fatto, qualcuno il trauma la... droga. Ma no, che... però siccome io quel trauma l'ho visto e non l'ho patito, ma in qualche caso c'è proprio la amico mio, qualche... c'è la violenza, come si chiama violenza, ho capito. Tutto questo è diventato richiesta di risarcimento dall'America all'Italia di milioni. Cioè tu dici molti casi di preti pedofili sono esagerati. Secondo me sono gonfiati dalla richiesta di danni. Poi il pedofilo di per sé è una figura assolutamente negativa. Vabbè, ma ci tengono a far sentire il trauma che hanno patito da ragazzi. Quello che ho patito anch'io, ma non era un trauma, era una cazzata. Oh, era una carezza da cui non. Senti, invece hai visto che Verdini pare che aumenti il numero di... viene intervistato dall'Annunziata e aumenterà il numero di senatori. La campagna acquisti di Verdini ti fa schifo. È un grande scafista, lui li prende, poi li porta dentro. Come uno scafista? Sì. Più salgono sulla sua barca, più saranno destinati a essere naufraghi. Quindi quando poi si tornerà a votare spariranno nel nulla. E lui incassa. Va bene, Vittorio. Grande, eroico. Va bene, ciao Vittorio. Ciao, a presto. Ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Scafista non l'avevo mai sentito, Verdini scafista. È una definizione. Beh, insomma, gli scafisti sono notoriamente dei criminali. Mi pare un'allusione riferita a quello, insomma. Allora, Fabio da Roma, vai Fabio. Ah, sì, sono io. Ciao, credo che tu sia tu, insomma, no? Sì, no, pensavo che ce n'era anche un altro. Niente, volevo dire, in merito a quella del di andare al bagno o al cesto, a livello militare erano proprio turchi, per cui il massimo dell'igiene, o chiamato come pare, insomma, dovevamo stare tutti così accovacciati, per cui non ci stavano altre soluzioni. E allora? Niente, solo questo. No, niente, solo questo. Cioè, perché il modo migliore per andare in bagno è quello, secondo te? Secondo me sì, specialmente quando uno proprio non ce la fa più, per liberarsi. No, vabbè, d'accordo, però ho capito. Allora perché inventano i cessi normali? Per esempio, la persona che mi ha mandato prima quella foto là di cui ti parlavo, Parenzo, quell'immagine lì, mi ha detto anche... Io studiavo pure in bagno. Ah, ma un sacco di gente. Seduto comodo. Io ho studiato sempre in bagno. No, quella è una cosa orrenda. Io, per esempio, i bagni li odio. Cioè, io ci sto meno possibile. I giornali, tutto no, lì. No, io il meno possibile. Tutte le idee più belle vengono tutte da lì. Tu sai lei di cosa si occupa, infatti? No, ma questo non è vero. No, tutt'altro. Tu sai che Sgarbi faceva spesso le riunioni al cesso. Cioè, quando faceva l'assessore a Milano, faceva delle riunioni al cesso mentre cagava, ti giuro. Adesso prima o poi ce lo dobbiamo fare raccontare. Ma ti assicuro, ci sono delle foto di Sgarbi che io ho conservate da Giorgio Grasso e da altri, in cui c'è lui al cesso con i suoi assistenti intorno mentre va a cagare, ti giuro. Certo, io ho il bagno più bello di tutti, perché mi sono preoccupato solo del bagno e delle altre stanze non mi ha importato niente, ma il bagno è il luogo più bello che no, c'ho. No, io lo trovo una cosa oscena invece il bagno. No, bello, c'è la sala da bagno per lei, insomma. Bagno, ma un sacco di gente la pensa così. Comunque volevo salutare Parenzo, a differenza di tutti quanti, per me è un signore. sia come si esprime, sia vabbè, come adesso non fate questo slinguamento. No. E te ovviamente datevi due lingue, datevi tutti, però secondo me sei la persona più simpatica, almeno se scherza. Fatevi due lingue. Tutti quello che dici tu, tutti noi lo pensiamo, soltanto che gli altri ti sono attaccati perché non capiscono il tuo modo di fare. Comunque no. Vabbè, ciao Fabio, ammazzare. Giorgio Roma, ciao. Dai. Vai. Buonasera. Dimmi. No, niente, volevo dirti che tu cercavi qualcuno che si pulisse il sedere con le mani. No, veramente non è che cercavo qualcuno che si pulisse il sedere con le mani. Non lo trovavi mai, io non ho altro modo per farlo, mi sembra la cosa più normale, un bel bidet è la cosa più normale, più tranquilla. Sì, ma infatti non capisco lo stupore, cioè non capisco lo stupore quando io ho detto mi pulisco il sedere quando faccio il bagno con le mani, con le mani senza, spesso la carta igienica non la uso, per esempio, no? Ma io la carta igienica non ce l'ho proprio, io ho un bel bidet. No, beh, adesso questo è diverso, la carta igienica. Poi uno asciuga, c'è la carta igienica, può usare un attimino, ma insomma, situazione normale, uno si lava e si pulisce tranquillamente. Non lei è cresciuto nella giungla? No, io non sono cresciuto nella giungla, sono cresciuto in una famiglia educatissima, normalissima, in un centro cittadino di Roma. Sì. No, ma avevate comunque la carta, quelle cose che in Occidente, sì, diciamo, sì, ma anche in Oriente ormai si chiama carta igienica, proprio, e le due parole unite insieme, carta e igienica. Laddove la parola igienica è riferita all'igiene, la parola carta è riferita alla materia. Ho capito, però non è che adesso gli altri... È molto più igienica l'acqua della carta, se uno riesce a pulirsi la carta. Poi si lava le mani. Entrambe, non c'è dubbio. Comunque io sono dalla parte di Giorgio, spesso passo dal bagno, cioè dal cesso al bidet accanto, che i due in Francia sono separati, ma in Italia per fortuna sono insieme. Uno passo accanto facendo pochi centimetri, no? Spostando il corpo da una parte all'altra senza soluzione di continuità, e non tocco carta igienica, apro il bagno e pulisco e via, basta, e poi mi lavo le mani e tutto, e quasi sempre non tocco la carta igienica, però qualche volta ci sono dei casi, adesso non approfondiamo, non andiamo nei dettagli, lo faremo, però non andiamo troppo nei dettagli, sennò Parenzo si ma io le posso dire tranquillamente che mi sono costruito una casa all'estero, sì, dove non conoscono i bidet, mi sono fatto mettere la pompetta vicino un tubicino con una doccia, in modo che vicino al water c'è una doccia, che adesso non so se si chiama la tua. Famoso doccino, sì, il famoso doccino. Che uno si pulisce tranquillamente a quel punto, senza dover... La casa all'estero, stupendo, la casa all'estero. Enrico da Bergamo, Giorgio, ciao. Enrico. Sì. Dimmi. Ciao, buona serata. Allora, io volevo parlare per il discorso dei vegani. Sì, certo. Che sono totalmente contrario a ideologia, perché la trovo estremamente razzista e anche un po' vigliacca. In che senso vigliacca? Razzista? Non lo so, vigliacca che vuol dire? Beh, una è una conseguenza dell'altro, nel senso che ci poniamo il problema se uccidere o mangiare il coniglio che abbiamo sempre mangiato, o il cavallo che abbiamo sempre mangiato, no? Preciso che io ho sempre mangiato tutto in vita mia, escludendo gli insetti, perché vabbè, per un fatto di disgusto personale, ma per il resto ho mangiato quasi ogni tipo di carne, dal serpente agli scoiattoli, le marmotte, eccetera. Però una carotina che tu strappi dal terreno, E dopo 10 giorni di agonia, no, ancora viva, comincia a tagliarla a pezzettini o a pelarla. Sì, la massacri, no? Anche come un serial killer, come un macellaio qualsiasi, cioè, questa povera carotina. Un signor vegano che non vuole che il pollo, perché il poverino impiega 3 secondi a morire, sì, in un'industria. Poi prende una carotina che è 10 giorni che tiene nel frigo e la mette. Sì, è un assassino, amputata tutte le foglioline, la mettiamo nel terreno, no? Lei rigemoglia ancora, perciò è ancora viva. È 10 giorni. No, ma hai ragione, Enrico, fermo lì. E che cos'è? È che è un bell'ambiente. Ambiente di Maiano. La Zanzara. Tu sei pervert, questo sei un gran pervert. Cruciani, mi sto preparando per il nostro primo appuntamento. Non so se mettermi virginale o sadomaso. Fammi sapere, ciao. Cruciani. Yeah, you should be all night long. Allora, Parenzo, alla Zanzara succede veramente qualsiasi cosa e passa chiunque, da un politico, in questo caso un narcotrafficante. Un narcotrafficante, amico mio. Un ex narcotrafficante, ex, sì, ex mica è come il titolo, sai che il titolo onorevole rimane a vita, non so se il titolo di narcotrafficante no, rimane a vita. Non credo che questo come signore voglia ma magari, sai. Questo qua si chiama Rino Bonifacio, perché lo chiamiamo? Ha quasi 50 anni, ha scritto anche un libro su questa, sulla sua vita, è stato uno dei primi a portare le pasticche di ecstasy in Italia, quando non erano, lui dice, quando non erano illegali. Un innovatore a suo modo. A suo modo, no? Un innovatore. Si è introdotto... Una start-up ha fatto, esatto, sostanzialmente, esatto. La start-up, perché... della droga. Sì, ma perché lo chiamiamo? Oltre perché ci piacciono i personaggi estremi, i personaggi un po', no, borderline, eccetera, eccetera. Perché ti ricordi la senatrice Pezzopane? Il suo fidanzato, signor Cocia, ma stai scherzando? In quella famosa piscinetta, non scherzi. So dove, insieme a un signore con i capelli un po' lunghi, eccetera, che aveva l'aria di essere, insomma, poi si è scoperto che era in realtà appunto questo signore che si chiama Rino Bonifacio, signor Rino Bonifacio, una specie di personaggio incredibile, di origine napoletana, ha attraversato 30 anni di storia italiana, la cocaina, eccetera, eccetera. Durante una puntata della Zanzara, la senatrice Pezzopane ebbe a dire, per giustificarsi di quella foto un po', come dire, sconveniente, no? In piscina con il boss, con l'ex boss del narcotraffico, Rino Bonifacio, ebbe a dire che lui si era pentito, giammai, questo è incazzato nero, ha scritto mail alla Zanzara, devo correggere, devo fare, adesso abbiamo un appuntamento telefonico come al solito, balbettante, perché raggiungere Bonifacio non è semplice, no? Bisogna farsi dare i numeri di telefono agli amici, poi i numeri di telefono cambiano, e poi il numero è della fidanzata o della moglie, insomma non si capisce, abbiamo sto numero di telefono, lo utilizziamo perché vuole assolutamente dire che lui non ama essere chiamato pentito, capito? La parola pentito non la sopporta. È respingente. Rino? Sì. Eccoci, sono Cruciani, ciao. Oh, ciao Cruciani. C'è anche Parenzo. Salve. Parenzo. Ciao, come stai? Caro Rino. Disgraziato. Ci siamo incrociati noi, lo sai? Dove? Speriamo di no, dove? Siamo incrociati il 1 febbraio del 2013 a Gambrino. Capito, la notizia... Sì, per molti, perché molti giornalisti quel giorno purtroppo mi hanno un po' così, sono scappati perché appunto eravamo Monti a fare visita a Napoli e quindi... Chiediamo scusa se all'epoca seguivo Monti, chiedo scusa, non allora, seguivo no, le tue gesta. La notizia chiedo è questa, scusa, che Parenzo è praticamente entrato in contatto con uno che è sostanzialmente un ex boss della droga, caro Parenzo. Cioè, bisogna dirla. No, entrato in contatto. Lui dice di avermi visto. E ma io eravate, dico che ero. Ma che cazzo stai facendo? Eravate in contatto. Ma non eravamo in contatto per niente. Ma ci siamo mai frequentati? Ma no, per carità, stiamo scherzando. Pensa te, tuo padre è anche avvocato, non altro poco. Ma perché sa tutte queste cose adesso? Tuo padre è anche avvocato. Non capisco, beh, perché deve sapere tutte queste cose? Amico mio. E sei di Padova, io ho fatto una storia a Padova, ci ho vissuto a Padova. Chi hai conosciuto a Padova? Certo, non hai conosciuto, come dire, professori universitari, come no. dire, no? A lui no, dice. Era al Due Palazzi, lui lo conosce bene. Al carcere, beh, lo conosco, nel senso che so che è il carcere, non è che lo conosco bene, però, perché ci sono stato. Il carcere di Due Palazzi, prima però ho frequentato quel banco. Lei quanto ha soggiornato nelle nostre patrie galere, professore? Abbastanza. No, quanti anni per capire? Beh, totale 18 anni, dai. 18 anni di galera. 18, sì, ma 18, ma tu devi sapere che normale, per devi sapere. Tutto normale. Sono fortunato, lo sai, 18 è sangue. Ma diciamo, ma vuol dire che ha commesso anche qualche omicidio, però? No. Traffico internazionale. No, perché di poi droga. Dicono che in galera non ci va nessuno, ma alla fine qualcuno ci va, c'è 18 anni sto signore. In galera ci va la gente e si nasconde la galera, caro Davide, diciamo. Ma lei si considera un criminale, diciamo? Beh, sì. Io non lo so, io ho fatto delle cose, poi se qualcuno dice che sono criminale. Ha fatto delle cose, anche Cruciani ha fatto delle cose, però non. Tu, anch'io faccio delle cose, però diciamo non ne do un'accezione criminale. Ha trafficato la droga in tutto il mondo. E come mai viene ospitato nella radio del Sole 24 Ore oggi? No, io forse sono il secondo, diciamo, persona discutibile che viene in intervista in radio. Lo sapete chi è il primo? Chi è? Renato Vallanzasca, lui la fece da latitante, io la faccio da libro, fortunatamente. Ma come lo consideri Vallanzasca? È un grande personaggio. Un grande personaggio, un genio. È un grande personaggio, basta. Senti una cosa. Sei un criminale, però. Sì, d'accordo. Partiamo da una storia, Rino. Partiamo dalla vicenda Pezzopane Coccia. Cioè, questa coppia, questa coppia con cui sei stato fotografato in una piscina qualche tempo fa. Ecco, ma come ti sei trovato in quella piscina? Spiegami. Non è piscina, era una vasca di passaggio, come tutte le vasche che ci sono lì sulla riviera romagnola. Sì. Eravamo lì, è venuta con il suo fidanzato. Sì. E ci siamo conosciuti. Sì, ma come ti considerava lui? Cioè, ti considerava una specie di mito o no? Ma non, che ti posso dire? Mi rispettava, mi stimava, che ti posso dire? Mi spiace solamente che è nato questo epilogo, però giustamente io ho chiesto gentilmente se era possibile chiarirlo. A quanto pare... Cioè, perché lei ha detto qui alla Zanzara, quando l'abbiamo chiamata, che tu ti sei pentito. A te la parola pentito non piace. Purtroppo questa parola in certi ambienti può essere interpretata male. Cioè, non ti piace la parola pentito? No, non è bella questa parola. Cioè, i pentiti non ti piacciono? Ma assolutamente non mi piace. Anzi, io sono stato in carcere anche purtroppo per colpa dei pentiti. Quindi... Scusami, Rino, ma tu come li consideri in generale i pentiti? Degli infami? Sono dei collaboratori che cercano in tutti i modi di attraverso la collaborazione di sfangarla, ottenere benefici. Ma fatevi la galera, cioè, ma scusate, ma tu hai sbagliato, paga nella vita, chi sbaglia deve pagare, paga. Perché devi far pagare di più e oltre? Poi alla fine che fanno questi? Escono, prendono lo stipendietto e poi si mettono a delinquere un'altra volta. Ma tu un pentito lo consideri come? Una brutta persona? Un pagliaccio? Che vuole uscire, basta, tutto qua. Un infame, un infame. Beh, chiaro, l'infame, collaboratura, la stessa cosa. Cioè, se non vorresti trovartelo di fronte un pentito, perché sennò altrimenti non potresti anche non controllarti. Ma può darsi. E a Saviano cosa vuoi spiegare? Se è possibile glielo spiegherò a lui, io gli ho chiesto. No, ma che cosa? Sicuramente che lui fa dei libri... Soprattutto l'ultimo che ha fatto 000, ha fatto un libro sulla cocaina. Sì. Che ne sa questo di cocaina? Oddio, penso che ne sappia, però attraverso magari degli atti. Come l'ha scritto lui, lo posso scrivere pure io, lo scrivi pure tu, lo puoi scrivere, no? E chissà come mai non è stato scritto prima, però. Prendi gli atti giudiziari e fai un libro. E chissà perché nessuno aveva denunciato prima, però. Chissà come lui mai. Parla della cocaina, soprattutto. Appunto, chissà come mai. Sì. E non mai sto parlando solamente di quest'ultimo libro che ha fatto, 007, come c'è. Senti una cosa, ma tu quanta coca hai portato in Italia? Tonnellate e tonnellate? Ah, troppe tonnellate, no? Ma pure l'eroina? Pure l'eroina hai trafficato? No, assolutamente. Non mai toccato, ed è vero che hai portato l'MDMA in Italia? Sì, quello sì, perché ma allora non era sostanza illecita. Ma l'idea è che qualche ragazzo può essere morto, ecco. No? Per aver preso quelle pasticche tue. Ma non penso quelle che portavo io. No, però ho capito, tu hai portato un sacco di droga, hai fatto il trafficante di droga. Non ti sei mai pentito una volta per tutte le morti? Essere un killer, tutte le morti comunque. Che indirettamente hai provocato. Le morti per che cosa? Fumo, cocaina, per anche la cocaina ammazza il cervello, distrugge il cervello. No, perché lo zucchero non ammazza secondo voi? Vabbè, è un po' diverso, è diverso lo zucchero. Alcol no. Tabagismo nemmeno. Ma sì, ma tu d'accordo, però insomma non è la stessa cosa. Tu morti per alcol e per tabacchi, adesso ve ne dite. Dai, ragazzi. La cocaina mica fa bene, amico mio. Ma sai, dipende. In Colombia le foglie fanno bene. Va bene, d'accordo, ma insomma la cocaina. Ma tu ti sei mai fatto di cocaina? Come? Tu ti sei mai fatto di cocaina? No, assolutamente. Oggi si consuma più cocaina rispetto al passato o no? Non so perché non lo so. Cioè ormai. Non so perché non esco. Sono anni che non esco, io ho finito da poco. Quindi non ti saprei dire, penso sì, consumo c'è sempre, cioè. Tabacco, consumo del sì. Ma non faresti più questa cosa qui, cioè non trafficheresti più in cocaina, cioè. Ho sofferto un po' troppo, quando soffri troppo poi ci ripensi, potevi fare un'altra vita del genere. Va bene, ciao caro, ciao. Ciao, grazie. Ciao Rino, ciao. Quante cose sapeva della tua famiglia, eh? Signor Bonifacio, tuo padre tanto. Fa l'avvocato, no, tuo padre fa l'avvocato a Padova. Ma l'avrà visto su Google, Sarà informato, padre fa l'avvocato a Padova, vi siete incontrati. No, ma insomma, c'è una liaison, Ma quale liaison? Io non so neanche che faccia Bonifacio, abbia questo qua. La famiglia Bonifacio. Ma avrà riconosciuto lui, visto che io sono mediamente noto, ma avrà notato lì al Gambrinus tempo fa, evidentemente. Come lui ha detto, io ero per Monti lì, quindi... Però c'è qualche contatto, no, c'è però, qualche contatto. C'è un contatto. Come no? Allora, Francesco Pescara, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Ciao, senti, innanzitutto sentite i gusti musicali, non te li fa mai nessuno, però hai veramente dei gusti musicali fantastici. Vabbè, vai, vai, vai avanti, dai. Non si sente niente, dai, Massimo, non si sente niente, dai, richiamiamo. Massimo da Roma. Sì, pronto? Dimmi. No, io volevo intervenire in merito al discorso che aveva anticipato Sgarbi, o perlomeno accennato Sgarbi, in merito a Gelmini. Beh, innanzitutto non è ognuno poi la prende un po' come vuole. Lui magari la prende in maniera un po' più, dice vabbè, ma io sono forte di mio, la strusciatina di barba a me non mi ha fatto niente. Ma io dico, non a me personalmente, ma io ho conosciuto gente facendo parte di una squadra di calcio quando avevo circa 17-18 anni, di Don Pierino Gelmini, perché aveva messo su verso gli anni 75-76 una squadra di calcio. Allora? Importunava i ragazzi, li importunava. E lì negli spogliatoi c'erano due ragazzi, parlavano tra di loro, dicevano io non ci vengo più a giocare, perché è come mai? No, non lo so, ma questa è una testimonianza sì, diretta. Carità, è curioso che venga fuori tutto adesso, però. No, però se Sgarbi diciamo minimizza. Sgarbi ha un po' minimizzato dicendo che molte denunce che vengono adesso fuori sulla pedofilia, ma non solo adesso, eccetera, si riferiva al caso di Don Gelmini, ma non solo, sono esagerate perché secondo lui erano solo delle carezze o comunque dei gesti gentili. Ma delle carezze nello spogliatoio ai ragazzetti di 16-17, io avevo 18 anni, ero grandino, ho giocato quella partita amichevole, schifo, invitato chiaro, da Don Pierino Gelmini, ho preso e non ci sono più andato. Sì, no, ma è chiaro che fa schifo la carezza, fa schifo qualsiasi atteggiamento ammiccante di una persona che non è un parente. Anche lo sguardo languido, anche ma fa schifo, la parolina, ma la battutina buttata mamma lì mia, così. Ma è ovvio che fa schifo. Non va bene, non si può minimizzare. Ma è certo che non va bene, la cosa che io quel giorno ho preso e non sono più andato a giocare a pallone. No, ma infatti minimizzare come ha fatto Sgarbi secondo me è anche sbagliato, cioè, perché altrimenti uno dà l'idea che chi chiede risarcimenti lo fa solamente per beccare i soldi e non ci sia nulla di bravo, vero, cosa che è possibile come in tutto, come in tutte le cose dell'uomo. Perfettamente d'accordo. Santo Torino, dai, ecco, ciao, santo da Torino, vai, santo. Sì, ciao, dimmi. E che ti devo dire? Che io vengo dall'oratorio e nell'oratorio c'erano gente che frequentavano ed erano pedofili, ma noi li riconoscevamo, sapevamo chi erano. E i preti, alcuni preti, erano buona, brava gente, però non poteva toccare questi personaggi qua che frequentavano l'oratorio. Mm. E niente, ho voluto dare questo contributo, anche se vi seguo tutte le sere. Tu, Cruciani, però a te ti piacciono i travestiti. A te ti piace o non ci sei andato? Perché si sente, si avverte. Ma che si avverte? Che cosa? Che sono andato con i travestiti? Si avverte, esatto, che sei andato con i travestiti? Sì, pigli per il culo tutti qua. Tu ci sei andato. Ma no, guarda, non ho questa passione, amico mio. Ti posso assicurare che non ho questa passione. Ho tante altre perversioni, ma non quella di andare con i travestiti. Vabbè, io allora non ci posso sono guardare andato. Neanche negli occhi. È gente che non sopporta. Cioè, ma che vuol dire non sopporti i travestiti? Spiegami. Non riesco a guardarli negli occhi, non riesco ad avere un contatto. Ma che vuol dire non avere un contatto? Ti obbliga, cioè, infatti, ma è la mia malattia, Io cioè, non li sopporti? Io, assolutamente. Io prima era una cosa repellente. Sono andato un anno a Ibiza, mi avevano portato, avevo conosciuto Vicente. Che non bisogna andare a Ibiza per vedere i travestiti, basta andare sotto casa comunque. No, ma guarda, io abito a Torino, a Porta Nuova li sfornavano. C'erano dei meridionali che li facevano arrivare come arrivavano questi ragazzini 16, 17, 18 anni, che erano anche minorenni, si cominciavano a fare punture di ormoni, li vedevi, e questi qua, questi che poi i transessuali che frequentavano Porta Nuova, e bene a sapere, perché io era una cosa che proprio odiavo, che pagavano alcuni miei amici, gli davano 30.000 lire per farsi fare i puntini. Vabbè, ma non mi pare una cosa così strana, facevano le marchette. No, questi miei coetanei adolescenti si facevano fare i pompini da questi nuovi. Sì, vabbè, ma dunque. Vabbè, insomma. E dunque, no, vabbè, non sopporto. Ma cos'è che non sopporti? Non sopporti questo tutto questo traffico, questo mercimonio, questo traffico. D'accordo, sì, certo, non è una cosa bella, ma non è che c'entrano i travestiti. Questo succede anche tra persone in cui non ci sono i travestiti, insomma, tra cioè il mondo della prostituzione. Tu stai dicendo che alcuni tuoi amici si facevano dare dei soldi da questi, ma se non c'erano questi c'erano i famosi vecchietti del parco, cioè non è uguale, cioè gli omosessuali che le vecchiette del parco, sì, ma quello era ancora osceno, però erano donne, e con le donne vabbè, voglio dire, questo è però il gusto tuo, con le donne va benissimo. benissimo. No, ma anche gli uomini, i famosi, che ne so, un gay nel parco che cerca i ragazzini e paga per farsi fare i pompini. Ma voglio essere ignorante fino alla morte. Fino alla morte non me ne frega proprio niente. Su quel tasto lì proprio non c'è niente. Cioè, non sopporti. È come l'eroina. È come l'eroina. Cosa? Sono due cose che io nella mia vita, bene o male, l'ho vissuta. L'ho vissuta vivendo, no? E fai un po' di tutto. Cioè, sei stato eroinomane. No, io non la sopporto. Non sopporti l'eroina. Vabbè. Assolutamente. Che c'entra l'eroina con i transessuali, non lo so. Ciao. E in conclusione, caro Parenzo, una bidet collection. Che gente ipocrita! Che gente bigotta, se non vuole sentire la zanzara, che si tappi le orecchie. Il sedere si lava con le mani. Comunque, Parenzo, anche i radical chic come te, quando vanno al cesso, se si rompe la carta igienica, si spassano il culo con le dita come tutti. Buonasera. Comunque, Parenzo, anche i radical chic come te, quando vanno al cesso, se si rompe la carta igienica, si spassano il culo con le dita come tutti. Buonasera. Cruciano, mi raccomando, lo scopettino serve per la tazza. Ciao Cruciani, io volevo dirti che nella mia esperienza in Francia ho notato che gli unici che non avevano il bidet erano una famiglia di origine italiana, anzi un'italiana trasferita lì. Le altre due signori francesi che mi hanno ospitato avevano il loro bel bidet, anche se la scomodità è che loro hanno il cesso separato dal resto del bagno e quindi è un po' scomodo perché uno deve prima fare le cose in bagno e poi andare di là a lavarsi. Vabbè, ciao. Ma di che cazzo state parlando, brutti animali, mio Dio, ma non vi balena in mente l'idea che qualcuno magari sta mangiando, bestie? Tecnica in tre step. Step 1, ci si pulisce il culo con carta igienica. Step 2, si prende carta igienica, si inumidisce, ci si lava, quindi con la carta igienica umida. Step 3, ci si asciuga con carta igienica asciutta. Risultato ottimo. Luciani, ciao, senti, sai che ha bisogno del proctologo? Quei quattro poveracci che hanno perso i soldi con quelle quattro banche di merda che li hanno incurati. Lì la ferita veramente ha bisogno di un proctologo. Ciao Luciani, ciao. Cruciani, ma che te li levi gli anelli quando ti pulisci il culo? Attente che ti rimangano dentro. E ci sentiamo domani 18:30, ciao. Che mondo sarebbe senza la zanzara? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.